sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Già, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. A niente, assolutamente a nulla. Ti prego. Ma voi ci credete davvero? Che il centrodestra adesso, in particolare Forza Italia, vuole fare una guerra a 360 gradi a Renzi? Se lo possono permettere? Se lo possono permettere le aziende del Cavaliere? A parole è così, a parole in questo momento vincono i falchi di Forza Italia che vogliono fare la guerra a Renzi dopo averci inciuciato a lungo. Dopo aver detto che Renzi era meglio di eccetera eccetera, che era l'erede di Berlusconi, lo abbiamo sentito tutti. E invece adesso Brunetta, sentite. Ricominciamo dall'alleanza con la Lega, ricominciamo nella ricostruzione del centrodestra, ricominciamo con l'opposizione. Dunque l'alleanza con Salvini allora è davvero possibile? Assolutamente sì. Alleanza a 360 gradi. E opposizione 360 gradi. Scusa Parenzo, com'è che ha fatto alleanza? Ma si torna indietro. A 300 com'è? Con chiunque, intanto cretino, primo. Alleati con chiunque. Renzi, schifo. Berlusconi, buono. Cretino e studia cretino. Hai ancora il cagotto? Guarda, no, oggi due volte. Beh, due volte non è poco, eh. Cioè, non è poco. No, comunque, detto, oggi ma com'è, solida o liquida? Guarda, da una prima analisi delle feci. Non è ancora in una fase di durezza, diciamo. Però stai migliorando. Sì. Io credo che anche Squinzi, quelli che ci ascoltano, i nostri amici della assolutamente vogliono sapere. Non penso che oggi, tra tutte le notizie che hanno Ucraina e quant'altro, siano così interessati al mio stato di salute dell'intestino. Il 99% degli ascoltatori della Zanzara vogliono sapere se le tue feci stanno ridiventando solide grazie ai vari farmaci che prendi oppure sono ancora allo stato liquido. Soprattutto perché domanda. voglio avvertire coloro che puliscono i bagni della sede della radio a Roma, ecco, di essere pronti alle venienze che domani mattina trovate probabilmente i bagni invasi dalla merda di Parenzo. No, io a differenza tua quando faccio tutto tiro l'acqua. Brunetta, Renzi ha fregato Berlusconi. Però se la deriva autoritaria c'è oggi, evidentemente c'era anche ieri. No, vede, Renzi era quello che aveva detto a Berlusconi, io ti riconosco, che aveva detto a Berlusconi, tratto, facciamo le riforme insieme, facciamo il Presidente della Repubblica condiviso. Berlusconi c'è stato a questa apertura, è stato fregato, Renzi l'ha fregato, Renzi non ha mantenuto la parola, Renzi è stato un imbroglione. Mamma mamma mia che noia queste cose di politica, una noia mortale, guarda, una noia veramente mortale. No, ma ti assicuro, una noia infinita. Allora, il senatore, credo che sia, o deputato della Lega, Sergio Divina. Sergio Divina, ex sottosegretario agli interni, se non sbaglio. Di Trieste, Divina. Sì, o Pordenone, Udine. Vabbè, comunque, friulano, dici tu. Sì, sì. Signor Divina, dice che ci sono 7 premi Oscar. Oscar, 7 premi Oscar che sostengono la Lega nella questione dell'euro, cioè 7 sì. premi Oscar. Oscar o Nobel? Oscar, dice lui, Oscar. Grazie a tutti ci i nostri sono ospiti. 7 premi Oscar che dicono le baggianate premi che sto Oscar? Dicendo io. Facciamo 7 premi Oscar magari. Dell'economia Oscar? Che dicono sì, le no, baggianate che sto dicendo io. Ma le cose si evolvono, si evolvono. Premi la Nobel, grande bellezza, Nobel, la grande bellezza, visto che ci diamo un Oscar. Caro Divina, Nobel, Nobel, ci sono gli Oscar del cinema e ecco. i Nobel dell'economia e i Nobel dell'economia, ma sicuramente, caro Divina, tu lo sai. Beh, sgarbone, eh? Sgarbone ieri sera su Sciolta Civica, direi quasi Pulite, definitivo. Sì, sì. Devo dire, in questo caso, più estremista del sottoscritto. Io, Sciolta Civica, partito inesistente. Beh, però, come lo dice Sgarbi, ragazzi, su, è impareggiabile, è impareggiabile. Sentiamo. Devo dare la pubblicità. Lo spostamento la pubblicità, non c'era, Vittorio. Perché tu avevi i tuoi lettori, Vittorio. E ti mandavano a fare in culo se li tradivi. Allora, non se sei eletto da nessuno, allora, se ne frega di dove vanno quelli di Santa Civica. Non li conosce nessuno. Senti, sono senti nulli, dobbiamo comunità. Fare dobbiamo fare dobbiamo un fare le pulci. Un partito che si chiama Scelta Civica. Ma che cazzo di partito è? Scelta del buco del culo. Quale Civica? Evviva. Quale Civica? I Monti. Ma che cazzo è la Monti? Porca puttana. Ma cos'è scelta, scelta del buco ma del dai, culo? Ma che roba è? Scelta del buco del culo. Ma perché? Beh, stupendo. Stupendo, stupendo. Ma che roba stupendo. È? Ma che è un bel ambiente. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così fa cagare. Tra l'altro Adinolfi è anche contro la legalizzazione della prostituzione, come vabbè, è normale che sia. E contro questo meraviglioso esperimento che qualcuno vuole che provare. Non si farà. Ma che purtroppo non si farà perché in Italia non si riesce a fare mai nulla, non si riesce mai a fare un cazzo, per dirla in maniera molto limpida, in molto maniera secca. In argomento. No, per dirla sì, in maniera chiara e tutti capiscono, no? Non si riesce a fare nulla, cioè c'è una zona della capitale che è l'Eur di Roma, infestato da prostitute. Infestato. C'è un signore che qui fra poco chiameremo, che si chiama Andrea Santoro, che è il presidente del nono che municipio di Roma. Non è credo parente, che sia parente di Santoro. Santoro. No, credo di no, Santoro è un nome abbastanza comune, che vuole dirottare le signore prostitute in una zona meno abitata, anzi probabilmente disabitata, voglio sperare. Gli dicono no, il Vaticano, lo stesso Partito Democratico, chi c'è ancora che ha detto, il prefetto di Roma, il signor Pecoraro, che addirittura dice questa è favoreggiamento della prostituzione. Favoreggiamento della prostituzione, ha detto il signor Pecoraro. Ma dai, su, di che stiamo parlando? Allora, c'è un aspetto della vicenda Capanna Giletti che è molto divertente. È quando Giletti a un certo punto dice una frase. Dice: io sono qui ad sentire una testimonianza, no? Poi dire: io sono qui ad aiutare il popolo, ad aiutare il popolo. No. La ringrazio della sua presenza. Leggi quel libro e potrà imparare guardi, un sacco di sai, io di questo libro sa cosa potrà voglio dirle? Un sacco di cose. Le vorrei dire una cosa. Dimmela. La imparerò in un certo posto questa cosa, ma Isabella è una donna, le faccio raccontare questo perché capisca a cosa serve la politica. Isabella è una che si alzava alle 4 di mattina, andava a lavorare con l'altra metropolitana alle 7 dove sta in questo posto, è morta d'infarto. Io lavoro per questa gente, è non per lei. E anch'io. Pubblicità. E anch'io Giletti. Anch'io. Pubblicità. Ma devo dire una cosa, va bene tutto, i vitalizi, Giletti che giustamente fa le sue inchieste sui vitalizi, sui doppi, tripli vitalizi, vergogne, privilegi eccetera. Però adesso, caro Massimo, cioè non è che tu lavori per la signora Isabella, lavori per te stesso come tutti. Perché ti piace, giustamente. Lavori perché ti piace, non è che lavori per Isabella adesso, non è che puoi essere diventato improvvisamente il capopopolo. Amico mio, ci vuole anche un minimo di decenza. Io non è che posso dire mi batto per i cittadini, no, mi batto per fare uno show radiofonico, punto e basta. Poi certo dico delle cose in cui credo, non c'è dubbio. Io sono convinto che tu credi al fatto che i deputati alcune volte hanno dei vitalizi esagerati, però non è che puoi dire mi batto per Isabella, amico mio, stiamo tranquilli. Ma Abbiamo con noi Andrea Santoro, presidente del nono municipio di Roma. Buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Eccoci qui, caro Santoro. Allora, il prefetto di Roma, il signor Pecoraro, dice che lei non può fare questa roba, che dunque ha messo la pietra, una pietra sopra, boom, dicendo anche che lei potrebbe essere addirittura indagato, inquisito, la metta come vuole, per favoreggiamento della prostituzione. Se lei tenta di spostare le prostitute in un'altra zona, lei favorisce la prostituzione, capito? Come risponde al signor prefetto? Che è stata fatta la stessa cosa a pochi chilometri da Roma, a Mestre, Repubblica Italiana, e nessuno è andato in carcere, il sindaco non è andato in carcere, il prefetto di Venezia Mestre non ha detto nulla, quindi vuol dire che insomma proprio fuori legge non è. Dopodiché il presidente del municipio vuole fare, ha giurato sulla Costituzione, quindi figuratevi se insomma vuole fare le cose fuori legge. No, però è una cosa pesante quella che ha detto il suo prefetto. Cioè, ha detto non si può fare perché le leggi non lo consentono, dice lui, che non decide, diciamo, non decide le leggi, però, signor prefetto, o no? Certo, no, diciamo che non si possono fare i quartieri a luci rosse, ma francamente neanche io voglio fare un quartiere a luci rosse, perché anzi io vorrei fare l'esatto opposto. No, ma sul fatto che lei potrebbe essere accusato di favoreggiamento della prostituzione, questa è la cosa grave secondo me. Come vuole rispondere su questo? Forse un po' una forzatura, diciamo, se il prefetto, la prefettura di Roma ha partecipato... Ma è un'intimidazione? Ha partecipato ai tavoli di confronto del municipio e si è detta in un primo momento assolutamente disponibile nel rispetto della legge a collaborare con il municipio, e noi vogliamo lavorare nel rispetto della legge. Ma come la considera, dice Parenzo, al di là delle procedure, i tavoli, può essere un po' una specie di intimidazione, di insomma, stop, la considera una specie di no, io penso che forse avrebbe fatto bene, siccome io rispetto per lui, penso che il prefetto abbia il dovere di avere rispetto per un rappresentante istituzionale. Doveva tacere prima di fare un'affermazione di questo tipo, forse bastava anche una telefonata, insomma. Bastava che mi chiamasse. Invece. Però effettivamente, se uno deve considerare le cose, se spostare la prostituzione da una parte all'altra, come si può interpretare come favoreggiamento della prostituzione? È semplicemente uno spostamento, punto. Cioè, se non fanno le prostitute da una parte, lo fanno in un'altra. Cioè, che c'entra il favoreggiamento? Il favoreggiamento è uno che ci guadagna sopra, no? Da un certo punto di vista, o sbaglio? Esatto. E qui io non penso che un municipio, diciamo, voglia... Ma lei dovrebbe essere incazzato nero per questa cosa del prefetto. Cioè, l'ha trattata come una specie di pappone. Cioè, ha detto, questo presidente del municipio di Roma vuole far pappone. Cioè, vuole... Per affrontare un argomento talmente scomodo in questo paese ci vuole molta pazienza. Ne ho sentite tantissime in questi giorni, ho sentito un sacco pure di Vaticano, anche. Pure il Vaticano. Ne ho sentite veramente tante. Ma perché il PD è contro di lei? Perché il PD è contro di lei? Me lo spiega, perché esponenti importanti del Partito Democratico a Roma dicono che vabbè, ma non si può fare, è un'esagerazione, non bisogna occuparsi. Con loro mi sono chiarito e hanno capito, diciamo, la bontà della proposta. Poi è chiaro che parliamo di prostituzione, di sessualità. E dunque? In questo paese non è semplice parlare di... Dunque anche nel PD c'è bigottismo su questo? No, c'è preoccupazione, c'è forse anche a volte paura, però ci sono tanti del PD che mi hanno detto vai avanti, continuiamo ad andare avanti, quindi c'è un bel dibattito. Forse vabbè, però non abbiamo bisogno di dibattiti qui, Santoro, il punto fondamentale è che noi ci siamo stancati di dibattiti, i dibattiti sulla prostituzione è una vita che si fanno. Lei quanti sta disegni di legge ci sono in Parlamento? Sono 12 disegni di legge in Parlamento. Allora lei sta cercando di fare una roba che certamente ha i suoi limiti, perché non è che elimina la prostituzione, perché non si può eliminare la prostituzione, anzi lo dica chiaramente, secondo me la prostituzione è ineliminabile, o sbaglio? La prostituzione in Italia è legale. No, ma non si può nemmeno eliminare, dico. È dalla storia dell'umanità, diciamo, che c'è la prostituzione. Cioè, è una cosa normale andare a puttane, o sbaglio? Sì, evidentemente sì, diciamo, non sono un bel po' di anni, diciamo, che per cui così. Lei non considera chi va a prostitute dei reietti della società, dei poco di buono, delle persone che sfruttano le donne? Mi dica la verità. Cioè, i clienti delle prostitute per lei chi sono? Gente normale? Immagino. Gente assolutamente normale. Guarda, io ho fatto molte serate, ho passato molte serate, diciamo, all'Euro, in quelle strade, ho visto che ci sono persone assolutamente normali. Non ci sono le persone con la Fiat 1 o la Fiat 126, diciamo, che vanno, ci sono macchine importanti che si fermano vicino alle prostitute. Cioè, è un servizio per la società la prostituzione, si potrebbe dire così? Beh, un po' forte, diciamo, un servizio per la società. Beh, è forte, io lo penso. Sicuramente è un fenomeno della società, cioè una cosa che c'è. Una cosa che c'è. Fare i conti, e noi dobbiamo cioè, i clienti non sono dei criminali, questo è il punto. I clienti non sono delle persone, non sono dei malati, perché molto si dicono sono dei malati, hanno bisogno di andare a puttane. Per lei uno che va a prostitute, uno che è malato o no? No. No, diciamo che non si può assolutamente considerare una persona malata uno che va prostituta. Certo, il rispetto del corpo di una donna è un fatto importante. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual needs. Allora, mentre tutti, il Vaticano, il prefetto, il Partito Democratico a Roma... Il Vaticano! Scusa, la pannella, il Vaticano. Mentre tutti si scagliano contro un solo uomo, una persona, Andrea Santoro, presidente del municipio nono di Roma, vicino all'Eur, anzi, dalle parti dell'Eur, che vuole semplicemente portare le prostitute da zone abitate a zone un po' meno abitate, dove non ci sono persone, dove la gente per strada non trova i preservativi, non trova le prostitute. Noi siamo con lui. Io forse c'è una cosa però, Santoro, che ve lo voglio dire. Lei è mai andata a prostitute? No. Vabbè, ma non però c'è... Devo dire, negli ultimi tempi ho frequentato parecchio, diciamo. Ah, frequentato parecchio. Per senta, lavoro, ma dicono però, che per le lavoro. Dicono che è venuta la tentazione andando per strada dalle prostitute, no? Francamente no, ero troppo impegnato a pensare altro. È sposato lei? Fidanzato? Sposato? Che è? Sono fidanzato. È fidanzato. Vabbè, comunque la cosa interessante è che lei dice che non fidanzata tranquilla, sì, che adesso si sta occupando di questo. È un po' preoccupato. No, chiedo. Si è preoccupato. No, è molto contenta, diciamo, e quindi è un fatto positivo. È a favore pure lei. È bello, è un parere di donna. No, questo era sembrava scherzoso. No, scusi, Santoro, però adesso concretamente, lei vuole, per far capire alle persone che ci stanno ascoltando, lei vuole spostare, cioè creare una zona di tolleranza, giusto? Chiamiamola così. Chiamiamola zona di mediazione sociale. Lo so che me ne rendo conto. Zona di mediazione sociale, no, così mi fai impazzire, Cruciale. Io adoro invece questi termini. Zona di mediazione sociale, bellissimo. Voi avete ragione, bellissimo. però dove ci si possa, come dire, parlare con le prostitute, cercare di tirarle fuori dal racket della prostituzione, e al contrario liberare i quartieri, i parchi, le scuole da questo fenomeno, perché i bambini devono crescere in un ambiente possibilmente sereno. Benissimo. Diciamo, ecco. Allora, però, se è d'accordo, questa zona che io chiamo semplicemente zona rossa per comodità, i clienti possono andare liberamente, come fanno adesso peraltro, andare a prostitute, consumare, eccetera, eccetera, in un ambiente di tolleranza. Sì, poi ci sarà pure la mediazione sociale, quello che vogliamo. Però nelle altre zone che succede? Nelle altre zone ci sono multe fino a 500 euro, ma come c'è l'arresto per un cliente che va con una prostituta minorenne nelle zone, quello diciamo. Non c'è dubbio. Però scusi, ma lei è d'accordo con le multe o no? Anche questo. È d'accordo? Io con le multe sono assolutamente d'accordo, perché è l'unico strumento per liberare i quartieri, i residenziali. Ma anche adesso, senza creare queste zone, diciamo, libere? Ma non funzionerebbero insieme. Senza le multe non ci riusciremo a fare, a spostare questo fenomeno e a liberare i quartieri. Però purtroppo... scusi, le multe, la gente arriva a casa, succede un disastro, cioè succede un disastro inenarrabile con le multe, cioè allora, famiglie questo, che si separano, mogli incazzate, lei lo sa bene, no? Se arrivano le multe a casa, no, lo sa bene, questo, mica perché l'ha provato, però... Sicuramente, diciamo, ho letto anche in questo, diciamo, delle cose spiacevoli che sono successe a mariti che sono visti ricapitare, quindi questo è l'ultima cosa a cui vogliamo arrivare, che si possa pagare sul posto, che si possano inventare anche forme anonime, insomma. Beh, Marino dice che bisogna che arrivi a casa la multa, proprio a io casa. Non so se questo francamente è possibile. Gli hanno detto di no per la privacy, infatti. Dicono. Io penso, e io scrivere penso addirittura che... nella multa che andava a prostitute, questo mi pare veramente una cosa assurda. Però io penso che può rappresentare un deterrente, cioè per far rispettare queste regole ci dobbiamo dare delle regole di convivenza, sennò qui ognuno fa quello che gli pare, e forse è arrivato il momento di mettere un punto. Ma le prostitute della zona sono favorevoli o no a questa roba? Perché non... Tante che abbiamo incontrato sì, perché si sentirebbero più sicure. Poi ce ne sono altre, ovviamente, che ma questa zona dovrebbe essere protetta, non si farà mai perché purtroppo in Italia non si riesce mai a fare nulla. Questa zona dovrebbe essere protetta all'esterno dalla polizia, cioè dovrebbe essere come se la immagina lei? Una semplicissima area di una città dove non ci sono abitazioni, però dove comunque passa la polizia, le forze dell'ordine, dove passa ad esempio l'azienda dei rifiuti per pulire, perché c'è anche questo piccolissimo problema che nessuno pieno mai di preservativi per terra, una cosa incredibile. Bravissimo, esatto, quindi una cosa assolutamente normale. È chiaro che non ci saranno i caschi blu in queste aree, però una zona dove passa qualche di, esatto, dove comunque ci possa essere un controllo, ma lo dico anche per le stesse prostitute, perché poi il racket della prostituzione c'è, non è che sono tutte volontarie o scelgono tutte volontariamente di fare, no, ma certo ci sarà sicuramente, ma quello, su quello indaga la polizia, se uno sfrutta la prostituzione, esatto, ci sono le indagini della polizia, però che è giusto devono essere severissimi, devono prendere, ragione, Santoro, vabbè, ma devono prendere, ma quello è normale, ci sono già le leggi che condannano questa roba qua, non c'è mica del bisogno dell'intervento né di Marino né di Andrea Santoro, con tutto il rispetto, Santoro, per carità, certo. No, ma assolutamente. Comunque, guardi, a me il prefetto di Roma, che l'ha trattato come un pappone, che vuole addirittura, no, favorire la prostituzione. Diciamo così, diciamola tutta: il prefetto deve applicare, come dire, è il funzionario del Ministero degli Interni, deve applicare la legge, non è che deve fare le leggi, giusto? Giusto, e secondo me deve fare forse un po' meno valutazioni politiche, deve fare un po' di più il suo, giustamente, il suo mestiere. Comunque, ognuno deve fare il suo. Nel PD ancora ci stanno un sacco di bigotti che pensano che in realtà la prostituzione si possa eliminare. La prostituzione, ragazzi, è... in un partito che c'è il 40% c'è un sacco di gente. Sì, è vero, quindi, pure c'è, troppo. C'è, forse. C'è... Magari anche qualche prostituta, cioè, non lo sappiamo. Qualche... potrebbe anche... anche le prostitute votano per il PD. Beh, chi lo sa? Beh, per forza, ragazzi. Ma che scherzi, nel 40%, nel 40% del PD non vuoi il voto pure... delle prostitute? Beh, sì, lo vorrà pure, Santoro. Mi sembrerebbe assurdo. Beh, assurdo, beh, sicuramente le prostitute votano, se lei fa una cosa favorevole alle prostitute, voteranno pure per il PD, o sbaglio? Potrebbe anche essere, chi lo sa, sono cittadini. La mossa elettorale di Santoro. Ma quanti sono le prostitute a Roma in termini di elettori? Quanti sono gli elettori? Beh, no, sono circa 4.000 a Roma. 4.000, all'euro quante voti, sono all'euro? Sono circa 150, una ogni 20 metri. Una ogni 20 metri, esatto, ragazzi. Spostiamole in un posto dove non ci stanno i ragazzini, dove non ci stanno le famiglie. Almeno questo, no? Santoro, lo so che non si farà mai, però avanti tutta, avanti però tutta. Però proviamoci, perché almeno, perché se no in questo paese non cambia niente. Però lo dica alle donne del suo partito, andare a prostitute non è una cosa da malati, perché molti pensano questo. Io sono andato qualche volta in un paio di bordelli per strada, non ci vado perché lo non sappiamo. Me... Però questo conosco un sacco di amici che hanno i numeri di telefono, perché poi la prostituzione in realtà avviene soprattutto con i numeri di telefono. Ne abbiamo provati un po' e poi sentiremo più avanti. I numeri di telefono, anche all'euro, cioè sono un sacco di mignotte che vengono interpellate con i numeri di telefono. Uno chiama e le fa venire a casa. Quelle che stanno per strada sono una minoranza estrema. Vabbè, Santoro, la saluto, arrivederci. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Beh, vogliamo fare un applauso, caro Parenzo, tu non lo farai, lo so, al comune di Vicenza. Il sindaco è un esponente del Partito Democratico, che si chiama Achille Variati. Come no? Che si è dato una mossa, per fortuna. E cosa fa? Ha scelto di interrompere la fornitura di acqua e luce gratis ai nomadi. Amico mio, no, benissimo, ma benissimo, perché... ottimo. I Rom devono pagare le bollette come gli altri. È un inizio. Dopo c'è lo smantellamento di un campo e uno che si cerca la casa come tutti i cristiani, cioè bussando alle agenzie immobiliari, andando a cercare gli annunci sul giornale col passaparola. Come sì, tutti... l'amico Achille Variati sa perfettamente che non è che così risolve la questione dei Rom. Ma lui non deve risolvere la questione dei Rom, perché non esiste nessuna questione. Ma non esiste nessuna questione Rom. La questione Rom è inventata da chi ci vuole speculare sopra. Certo. La questione Rom è inventata, non esiste la questione dei Rom. I Rom, io non li considero nemmeno Rom, sono cittadini, quando sono italiani, cittadini come gli altri. E come tutti gli altri cittadini, non possono occupare zone di una città, devono andarsi a cercare. No, infatti ci sono dei campi attrezzati alle volte. Ma i campi attrezzati sono un abominio. Sono un abominio i campi attrezzati. Un abominio. I campi attrezzati, certo, certo. Troviamo altre soluzioni. No, troviamo. Si trovino loro altre soluzioni. Che la gente non viva si nei trovino campi. Loro altre soluzioni. Se le devono trovare loro altre soluzioni, non noi, perché a te qualcuno ti cerca casa? No, a te qualcuno cerca casa? No, per carità. Quando ma tu sei andata a cercare. No, no, facciamo un esempio. Alle persone disagiate. No, ma lascia perdere le persone disagiate. Sono disagiato. Ma che disagiate? Se sono disagiate, ricchissimi alcuni, vanno, smettila. Vanno alle volte, ad esempio, a Milano all'Aler, aperta parentesi, fallito. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Fallito. E chiedono l'assegnazione, allora, della casa popolare. Parenzo, quando David Parenzo si è trasferito da Siena a Roma. No, è un esempio. Quando ti sei trasferito da Siena a Roma. Io ho consultato l'agenzia. Non c'è qualcuno. Ho chiamato qualcuno. Non c'è qualcuno che al posto tuo ti ha trovato un alloggio. Ma no, un certo, benissimo. No, ma cosa c'entra? Se sei indigente, e non eri indigente ovviamente, cosa avresti fatto? Ti saresti rivolto a un ufficio comunale, ti saresti certo, fatto mettere in graduatoria, e poi magari occupavi una casa, naturalmente non occupavi abusivamente, una casa. Ora, i signori rom italiani, siccome dicono di essere italiani e noi siamo contenti che siano italiani, non possono fotterci la luce e il gas a gratis, se la devono pagare, devono cercare le case e non le baracche, come tutti gli altri. Le persone che vivono nelle baracche, benissimo, possono essere tollerate, ma i campi rom devono essere chiusi col lucchetto e le persone cercarsi la casa come gli altri. Oh, a proposito di prostitute, cari bambini che siete all'ascolto, cari genitori che portate i bambini in macchina mentre ascoltate la Zanzara, lo so che ci sono ancora un sacco di persone con figli di 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni in macchina. Bisogna tenerne conto. No, però se ne fottono questi qua la maggior parte a volte e ridono. La prostituzione esiste, soprattutto la prostituzione, come dire, non quella per strada, quella che si va a trovare nelle bacheche online. Ma è una cosa molto semplice, vai a fare prostituta. Come grillo, escort. Le bacheche online. Certo, le bacheche online. Escort, tu vai a trovare, escono fuori mille numeri. Mi ho fatto certo, un piccolissimo esperimento. È tutto, anche in 3D le prostitute ci sono. Ma tutto, con anche la stampante. Come fai a scopare con la stampante? No, come fai a scopare con la stampante? Ma lo metti, lo digiti, scrivi prostitute. No, ma come fai a scopare con la stampante? Scusa, con la pieno di buchi, la stampa cosa. Ma ho capito, ma non si può scopare con la stampante. Perché sei del Sole 24, sei un cretino. Lo fa chiunque. Ma non si può in Germania esiste. Ma non può esistere scopare con la stampante con 3D. Ma col foglio che esce, certo. Ma non si può fare. Esce il foglio e lo buchi. Cosa c'è? Vabbè, comunque, abbiamo chiamato per conto del Comune di Roma. Abbiamo voluto fare un sondaggio per conto del Comune di Roma. Prostitute. Per conto del Comune di Roma. No, non sarà d'accordo. Ah, però, in convenzione, dici. In convenzione ti col Comune. Diamo anche di Roma. I soldi adesso al Comune di Roma. Comune di Roma, che ne pensate dell'idea di creare una zona a luci rosse nella capitale? Prostitute dell'Eur che non vanno per strada, sono in casa. Però, sentiamo. Pronto? Sì, buonasera, qui Comune di Roma. Stiamo facendo un sondaggio. Volevamo sapere se. Non faccia. Sì, mi scusi. Volevamo sapere se lei esercita a casa o per strada. Sti cazzi. No, è un. Ce lo metti vicino. È un sondaggio del Comune di Roma. È il sondaggio del Comune di Roma. Chiamami col numero se è il sondaggio. Mi fai uscire il numero così io poi te vengo a cercare più dentro al Comune di Roma. Ma i sondaggi il Comune di Roma non li può fare. I sondaggi del Comune di Roma mi deve mandare il numero di telefono se vuole fare i sondaggi. Scusi, okay? Cara, stiamo facendo un sondaggio perché il nostro sindaco. La prostituta, anzi transessuale, Gabriela, sentite. Gabriela? Sì. Sì, buonasera, qui Comune di Roma, stiamo facendo un sondaggio. Volevamo sapere una cosa, abbiamo una serie di numeri di telefono. Lei dove esercita, a casa oppure per strada? Per casa. Lei si considera sfruttata, schiavizzata da qualcuno oppure lavora da sola? No, per me stesso. Per se stessa, cioè non ha uno di quelli che si chiamano papponi, non ha un pappone? No. Se ci fosse una zona per prostitute all'Euro, lei andrebbe lì in quella zona oppure... No, meglio la casa, amore. È meglio la casa, eh? Sì, e cosa ne pensa allora di questa cosa di Marino che vuole fare una zona per le prostitute? Boh, lui deve andare a cercare quelli che stanno lì, che stanno a rubare la gente in stazione, no? Non le prostitute che danno piacere a voi. Ah, lei dice... Tanto vai in stazione lì pieno di zingari che rubano, perché lui non si mette a sistemare quelle cose? Ah, lei dovrebbe sistemare gli zingari? A noi che diamo piacere a voi si preoccupa. Va bene, cara signora, grazie, arrivederci. Buonasera. Arrivederci, grazie. La transessuale contro gli zingari, caro mio, la transessuale. Non so se Marino se la editore... prenda. Marino se la prenda con se la prenda con gli zingari che rubano la stazione. Scrivono qua in un messaggino, sì, non dico. So se il nostro editore approva. Ma qual è il problema, scusa? Il sondaggio. Ma è un sondaggio strepitoso tra le prostitute, no, capito, che rispondono, dico, via telefono. So, sai, con i temi che ci sono oggi all'UDG. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Beh, no, adesso questo non lo sappiamo se lo fanno in Germania. Allora, a un certo punto, nei vari numeri di telefono che uno si procura, siamo incappati in una guardia giurata. In una guardia giurata. Com'è possibile? Allora, lo stesso numero di telefono di una prostituta. Insomma, forse abbiamo sbagliato il numero, comunque sentiamo. Pronto? Sì, buonasera, Comune di Roma. Salve, stiamo facendo un sondaggio su quest'idea di Marino di fare una zona per la prostituzione. Possiamo fare alcune domande? Per la prostituzione? Sì, no, ho sbagliato numero? No, no, dica. No, volevo sapere se lei esercita per strada o a casa. Ma scusi, ho sbagliato numero, io sono uomo, io non esercito, e poi per Marino per la prostituzione a luci rosse per l'Eur, non è un problema mio, scusi, Dove esercita lei? Dove batte? Ma lei dove esercita? Ma io non esercito, non faccio questo lavoro io. No, ma lo fa in casa o per strada lei? Lo faccio io? Se Marino vuole fare la zona a luci rosse è un problema loro. Io non faccio la guardia giurata. Ah, la guardia giurata lei. Vabbè, fa. La guardia giurata però anche fa la prostituzione, ci hanno detto. No, non è il mio campo. Guarda, comunque lo fa per strada o in macchina? Questo non ho capito ancora. Questo lo faccia fare a sua sorella. No, però scusi, perché lei dice perché lo faccia fare a tua sorella? Ce ne sono altre dopo, e volevo sentire Giovanni da Treviso, 800240024. Giovanni, vai. Ciao, buonasera. Allora, dimmi. Innanzitutto devo dire una cosa a proposito di fica, che la moglie di Parenzo è proprio una bella topa. Vabbè ragazzi, però adesso va bene tutto, però Giovanni, dai, su, abbi pazienza. Va bene tutto, noi consentiamo tutto fino a un certo punto, però. I fattacci suoi. Fino a un certo punto, però, è una bella ragazza, punto. Non è una bella topa a proposito di fica. Vabbè, adesso voglio dire, non è che possiamo trasformare questa trasmissione in una cloaca allucinante. È già quello che è, perché lo vogliamo noi, ma mettiamo dei paletti. Adesso non puoi trattare così la fidanzata di Parenzo. Sì, è una bella ragazza, punto. Io non la definirei proprio. Non è, vabbè, che una... non è che serve, no, come dire, organizzare. Vabbè, adesso stai calmo. Un dibattito, Giovanni, vabbè, allora vuoi fare i complimenti a Parenzo di perché dici la sua. Poveretto, di questo, no, perché poveretto, però ha detto semplicemente questo qui. Va bene, sono felice che gli garbi anche a lui. Pure, non è che ti ha detto che è una prostituta. No, benissimo, brasiliana. Sono molto felice strada, che lui è un mestiere. Va bene, benissimo. Vabbè, Giovanni, dove aver fatto questo elogio della fidanzata di Parenzo? Poi, no, ma lei è partito male, però, perché a proposito di. Capito? Io dico che la fica è la cosa più bella del mondo. Vabbè, ma Giovanni, questo lo sappiamo. Questo adesso non è che però è radiomaniaci. È scandaloso. Che cosa? In Italia non si voglia capire questo. Non si voglia. Ma non mi pare che ci sia un problema, però. Un problema, cioè non ci sono persone che non vogliono, come dire, che ti impediscono di. No, mi pare che questo sia un maniaco. Di godere dei tuoi piaceri, Giovanni. Se uno no. alle 19:29. Voglio dire, perché bisogna essere costretti a fare 200-300 chilometri per andare in cerca di quella cosa? Ma non è vero, Giovanni. Non è vero. Basta che fai un numero di telefono, puoi avere quello che ti pare oggi. Se fai un numero di telefono con un cellulare, puoi avere quello che vuoi, quello che ti pare. Ma allora, se è così semplice, dico io. Legalizziamola questa prostituzione. A me lo dici? A me lo dici? Ma qui abbiamo ospitato fior di prostitute. Io ho capito che questo è interessato all'argomento, va benissimo che chiami la radio. Vabbè, ma non ho capito. Tu consideri la prostituzione una specie di diritto? Assolutamente, è un diritto. Vabbè, un diritto no. No. Un diritto non è un diritto. Non è che uno può dire no, la prostituzione di Stato di un diritto. Ci vogliono i bordelli legalizzati, non di Stato, privati, privati. Io credo cioè che la soddisfazione sessuale non può essere un diritto inalienabile. Insomma, io credo che l'orgasmo sia un diritto di tutti, di donne e di uomini e anche di transessuali. Però insomma, credo. Vabbè, ma ho capito, ma quello è come dire una soddisfazione che ognuno può avere, ma non lo vogliamo scrivere in Costituzione. Lei non vuole cambiare la Costituzione? Assolutamente no. Però insomma, io dico solamente una cosa, e qua lo posso dire alla Zanzara. Sì, dimmi. Viva. Vabbè, ho capito, vabbè Giovanni, dai, se lo su. Può scrivere anche sui muri, ma dai, se lo si faccia un tatuaggio in fronte, allora vai, sei malato, sei, dai, beh, su, completamente malato, vai. Sergio Divina, intanto il senatore della Lega lì era di Trento, Di Trento, non era... è vero, ho commesso un errore. No, pensavo questo, che anziché dire. Sì, no, ho sbagliato, ho commesso un errore, ho detto Friuli invece a Trento. Va bene, va bene. Poi... anziché dire viva la. Com'è che diceva quello lì? Fica, quello che è, sì. Ecco, bisogna dire viva Focus, economia. Non viva la fi. Cioè, qui bisogna dire un'altra cosa. No, però è un'accusa che stai facendo a Sino Barisoni. No, anzi, il contrario. Il legame Barisoni. No, informo l'ascoltatore. No, quello non lo so quali sono fatti suoi. Va benissimo. Non lo so, mi sembra che avessi fatto una. Accuso l'ascoltatore di aver sbagliato radio. Perché qui viva Focus voleva dire. Esatto, esattamente. Allora, c'è un altro esponente della Lega che non ha detto Oscar, ma ha detto... Però basta, aspetta, con questa gente, perché questa gente qua, questa gente della Lega, basta. Buon anno, basta. Parlamentare europeo. No, immaginavo che arrivasse, volesse arrivare. Beh, mancava da un po' di tempo, zio, buon anno, no? Parlamentare europeo oggi ha detto alla Mogherini, che rideva, che non conta un cazzo, proprio così, non conta un cazzo. Beh, è stato poi volgare. una specie di trombetta che però mi sembra che non gli ha funzionato così bene. Cioè, il Parlamento europeo con la trombetta dici sveglia, voleva dire Parlamento europeo sveglia Europa, non conti una mazza. Manco la trombetta ha funzionato. Mi sembra che non abbia funzionato, cioè, la trombetta. Il circo buon anno, non è, cioè, con tutto quello che lo paghiamo, manco la trombetta ha funzionato. Il naso rosso ce l'aveva almeno? Il nasino rosso ce l'aveva? Cerchio di fuoco? Poi vedo l'altro rappresentante degli esteri e ovviamente della sicurezza, la Mogherini qui presente, che in una frase poetica che le voglio dire, signor rappresentante, visto i risultati che ha avuto non nel Congo, dove mi piacerebbe che lei andasse e non tornasse più indietro, ma in Ucraina, dove è andata la Merkel a parlare poi con Putin su questo problema insieme a Hollande, lei conta un emerito, mi scusi il termine, cazzo. Che la parola cazzo è stata sdoganata al Parlamento europeo! Evviva! Pagato 12.000 euro al mese! Diglielo in faccia, diglielo certo, in faccia! Certo, chiamalo! Chiamalo! Dopo. Chiamalo! Chiamalo! Lei non conta nulla, dico nulla in questa Europa. E per svegliare quest'aula, voi dormite in piedi, l'Europa non conta niente, svegliatevi un po', svegliatevi, siete addormentati, noi abbiamo bisogno di un'Europa. Vielen Dank. Grazie, collega. Colleghi, buon anno, si ha. Collega, buon anno, lei ha parlato troppo a lungo. Cioè, ma ecco, la cosa migliore, ti prego, da isolare. Buon anno. No, ma anche oltre a buon anno, che ovviamente lo chiamano come deve essere chiamato, ma la compostezza, no? Quasi la voce patetica di chi dice: ma è patetico quel che accade. Fallo risentire, il tono di voce era come dire: ok, grazie, il matto ha parlato, gli inservienti in aula, grazie. Il tono è lo stesso. No, ma la pompetta ha funzionato o non ha funzionato? Ma non funzionava manco la pompetta! 12.000 euro al mese, manco la bomba del circo funziona. È come se tu in circo Medrano facesse ora il cerchio di fuoco, il cerchio non c'è, il fuoco neppure, anziché un leone c'è un gatto. Ma dice, ma che cazzo di circo è? Scusa, non c'è il cerchio. Invece no, il Medrano, senti, è un circo, senti, serio il Medrano. Senti Vittorione Feltri, Vittorione Feltri ha detto una cosa molto importante. Ha detto, a proposito di questo vergognoso mercato. No, ma fai risentire la voce di quello lì che lo tratta, del presidente della Camera. Un attimo, allora, del Parlamento. Questo mercanteggiamento di deputati che passano al Partito Democratico. Ha detto, il mercato di Berlusconi è finito, perché Berlusconi non ha più nulla da mercanteggiare dal punto di vista dei deputati. O dei parlamentari, ma le vacche? È verissimo che forse il mercato delle vacche di berlusconiana memoria è finito, però le vacche continuano a esserci. Sono stati 170 e oltre coloro i quali hanno cambiato casacca, e mi pare che tutti lo abbiano fatto non per motivi ideali, bensì per trovare delle poltrone più comode. Su Scelta Civica, la voglio riascoltare, Sgarbi su Scelta Civica, vi prego, Sgarbi su Scelta Civica. Devo dare la pubblicità. Lo spostamento la pubblicità, Vittorio. Perché tu avevi i tuoi elettori, Vittorio, e ti mandavano a fare in culo se li tradivi. Allora, non se sei eletto da nessuno, allora, se ne frega di dove vanno quelli di Santa Cinzia, non li conosce nessuno. Senti, sono dei dobbiamo fare le pulci. Che si chiama Scelta Civica? Ma che cazzo di partito è? Scelta nel buco del culo. Quale civica? Evviva. Quale civica? I Monti. Ma che cazzo è la Monti? Porca puttana. No, il bello, aggiungo io, è che no, ma non, adesso sto facendo una considerazione che non ha niente a che fare con quello che dice Sgarbi, che giustamente se la piglia con Scelta Civica, che è un partito che era inesistente ed è tornato a essere inesistente, cioè è tornato alla sua condizione naturale, cioè quella di sciolta del nulla. Però è che tutti se la pigliano ogni tanto con noi, no? Poi si utilizzano, ma non è colpa di Formigli, che fa benissimo, è la migliore trasmissione che secondo me c'è di approfondimento, comunque di talk in prima serata. Ma il punto fondamentale è un altro, che poi alla fine si va a pescare sempre nelle stesse cose che noi facciamo da anni. Cioè Sgarbi che sbrocca, Razzi e altre cose. Vabbè, ma lasciamo perdere. Giuseppe da Ravenna, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao, grazie per... Dimmi, vai. No, era due cose. Uno, volevo dare un assist al radioascoltatore ieri, che ha chiamato da Firenze il quadro delle aziende farmaceutiche, se ricordo bene. Essere concordi con lui su tutto quello che ha detto è veramente... No, era da Bologna contro Capanna. Che vuoi dire? Contro Capanna, che è perfettamente giusto quello che io ho detto. Cioè, mi permetto che anche il signor Parenzo sia veramente d'accordo e faccia parte di una parte di sinistra così permissiva. Essere permissivi non significa permettere... Non ho capito cosa devo fare, ma non importa. No, non ho capito cosa dovrei fare o dovrei dire, non ho capito. È quello che tutto è lecito e tutto è bello perché ci accolgono gli esteri comunitari. Lo sto dicendo veramente. Chi ha detto questa roba qua? No, aspetta. Di una zona. Io aspetto rossa, tutto quel che vuole, ma chi è che ha detto questa roba? Tutto è lecito. Non ho capito qual è l'accusa a Parenzo, Giuseppe, però cerchiamo di andare al sodo perché altrimenti facciamo notte. Vai. Ok, l'accusa a Parenzo è solo quella di essere meno permissivo con tutti. Ok, gli esteri comunitari, lo dice uno. No, ma diciamo che lui è fissato con le cooperative, è fissato con l'inclusione, fissato con queste robe qui. Non è solo permissivo. Io voglio vorrei si risolvesse un problema. Non è che solo permissivo o buono, ma che me ne frega. Il problema lo si risolve se esempio gli esteri comunitari, se l'Europa vuole. Come ha detto una volta, vabbè, se l'Europa vuole, va bene. Se l'Europa vuole, si risolve. Va bene. Giuseppe, ciao Maurizio da Biella. Ciao Giuseppe, Maurizio da Biella, dai. Maurizio. Allora, Cruciani, c'è la categoria che c'è la guida Michelin delle prostitute. Cioè? Poi camionisti, ora ti spiego. Sì. Prima una cosa, il sesso, io ho visto dei matrimoni che li hanno proprio tolti perché uno dei due non faceva sesso. Perché cioè, li hanno tolti, che vuol dire? Cioè, la gente si è lasciata, non è che li hanno tolti. Ho capito, ma non è un diritto. Comunque noi abbiamo sta cosa in mezzo alle gambe che dopo un po' fermenta. Io... Com'è la storia? Maurizio, professore, scusi. Maestro, abbiamo una cosa in mezzo alle gambe che dopo un po' fermenta. Che fermento dopo una settimana sul camion. Maurizio, tu sei un maiale, tu sei sposato? No, se mi sposo io a mia moglie do di lei, che la vedo ogni 15 giorni, per quello sono single per scelta. Io ti posso dire, il fine settimana quando arrivo, io sto non a Carisio, quando arrivo al casello di Santià e chiamo, e poi basta che prendi un giornale, prostitute, massaggi, cose ce n'è. Quelle su strada sono quelle che costano meno, ma se tu gli chiedi a una su tre, hai un alloggio, hai una stanza, sì però fa 50 invece che 30, non è che non ci sono le case. È che tutte vanno un po' così. È chiaro che uno in macchina fa, io non la faccio in macchina tutta la settimana sul camion, c'è la mia cuccetta, il mio lettino, andiamo nelle zone con noi camionisti. In Spagna ci sono degli autogrill, io ne ho visto uno, sì, non so se è legale. Attrezzato. Ma nelle zone dove parcheggiano, c'è il camper con la ragazza, noi andiamo con lei, andiamo via da lei, abbiamo preso una tisana, andiamo più piano, 80 all'ora, siamo appagati. Forza camionisti, va, fatevi sentire. Va. Io ma non ho capito una cosa però, Maurizio, qual è la tua tesi su questo? A parte questo racconto di vita, no, ma persona, e tu dici che la prostituzione dopo una settimana sul camion, dopo una settimana ho bisogno allora, di... dopo una settimana io non devo avere paura di andare a casa di una donna che arrivano i carabinieri perché non è legale. È giusto, perché anche noi single, perché siamo tanti single anche noi coi camion, non siamo brutti, sporchi e cattivi. Ma guarda che voglio dire, il problema non è singolo o non singolo, ci vanno un sacco di gente esatto, sposata. Vabbè, io sono singolo, poi ce n'è tante che non è singolo, anche sposati. E durante il fine settimana, mentre siamo per strada, là c'è un posto, zona rossa, per noi è uno sfogo, non dico una volta alla settimana. Ma senza avere paura, tu dici che c'è qualcuno che ti fa una multa, cose di questo tipo, esatto, che ti aggredisce. È bravo. In Spagna ti posso dire, c'è una zona distante dall'autogrill perché è abbastanza alta per il cambio. E lì col camper è passata la polizia, ma si può, sì, si può, paghi tranquillamente, là c'è le docce se vuoi andare a fartele prima, sì, ed è una cosa tranquilla. Vabbè. Quello è vivere, non è fare la vita che ce l'abbiamo lì, che non lo usiamo fai più. Fai un appello agli altri tassisti, agli altri camionisti, Maurizio. Chiamate la zanzara, chiamate, raccontate. Chiamate ragazzi. Dove sei, Maurizio? Dove sei a fare sto... Sto andando a Piacenza, poi mi fermo a Modena Nord, lì volendo esco. Se l'ha bruciata una zona che c'è, ma col cambio però Maurizio lo sai che un sacco di gente considera quello che hai detto una cosa da porci, da maiali, cioè ho capito, un sacco maiali. Di gente pensa che tu quello che fai, cioè il fatto che una settimana magari hai bisogno ma lui dipende come lo dici, come lo fai, questo no, come no, lo dice eccetera, come lo dipende come lui lo dice, in modo molto, come dire, è una brava persona, detto, non da all'inizio satanato, non mi sembra che ha detto. Alle volte chiama, sì, all'inizio ha usato quella immagine piuttosto fortina, colorita, diciamo, piuttosto colorita, però non mi sembra un maiale in calle, mi sembra uno che vabbè, ha bisogno di fare le sue robe. Benissimo. Dopo una settimana? Dopo una settimana abbiamo una discussione in Parlamento nelle mutande, scusami. In qualche modo. Ma adesso quello che ha lei lì è un fatto suo, esatto. Di cui a me francamente interessa molto. Perché non ti interessa di quello che ha nelle mutande, zio Maurizio? Posso dirti che temo che anche al nostro editore, credo, poi mi sbaglierò, credo che interessi poco sapere. Beh, questo è di quello importanza che fa, relativa. Di quello che ha in mezzo alle gambe. Il signor Maurizio Dabbiella. Questo lavoratore. Questo proletario. No, proletario. Ciao Maurizio, ti abbraccio. Bravo. Viva i camionisti. Via. Fai un bel bravo, ciao. Beh, caro Parenzo, abbiamo con noi un deputato, credo che è stato anche lui in quella che io chiamo sciolta civica, comunemente chiamata scelta civica, è uscito da scelta civica, il cosiddetto deputato francescano, è stato più volte nostro ospite, cioè indossa spesso, non so anche se ne indossa anche adesso che fa un freddo incredibile, i suoi sandali, si chiama Mario Sberna. Ciao Mario, buonasera. Buona serata a tutti, grazie dell'invito. Come stai innanzitutto? Bene, si fa un po' freddino perché evidentemente sono fuori dalla camera per far prendere meglio il cellulare. Senti Mario, ma voglio capire una cosa, ma porti i sandali anche d'inverno? Certo, sempre. Ma con i calzini? Sì. Con i calzini? No, senza. Come senza calzini? Ma fa un freddo incredibile. No, stasera a Roma proprio no. Cioè, ho capito, stasera, ma tu anche, no, fa freddo, anche d'inverno con temperature, tu stai con i sandali scoperti. Sì, ma l'ho già spiegato, è un fioretto, quindi i fioretti. No, lo so che è un fioretto. Se non portano sacrificio, che senso ha farli allora? No? Beh, bisogna sacrificare. Senti, tu consideri chi va a prostitute come, caro? Beh, insomma, credo di averlo già detto, l'ho anche messo in un progetto di legge. No, ma ribadiamolo, perché è importante in questo momento quando si discute a Roma di una. Un mezzo di una, malato, di fare una zona a luci rosse. Sì. Sì, che veramente, se io mi chiedo come si arrivi a Roma con tutti i problemi che ci sono a discutere di questo, ma certamente chi ci va ha dei problemi, cioè lo considero, come dicono la proposta di legge, che se dopo tre volte non l'ha capita, ha proprio bisogno di un corso di rieducazione. Ma uno, cosa, scusami, è la persona umana, di che cos'è la donna, di che cos'è la persona, la dignità della persona, ben sapendo tra l'altro che la stragrande maggioranza, se non la totalità, la quasi totalità delle ragazze e ragazzine che sono in mezzo alla strada sono semplicemente schiave di qualcuno. Però scusami Mario, sì, il problema fondamentale. No, a parte che non è vero. Sai, non è vero. Sulla questione della schiavitù ha ragione il nostro amico. Non sottovalutiamo questo aspetto. Io sono stato nella mia precedente vita, come dicono tutti i politici, stato nelle strade anche di notte con mia moglie, con questa associazione messa in piedi a Brescia, un sacerdote bravissimo che adesso è in missione, che cercava così di andare in giro di notte per le strade, lo fa tuttora ovviamente, a dare sostegno, un tè caldo, una parola. Perché non ci sono persone sfruttate, persone che lo fanno per guadagnare i soldi, per guadagnare dei quattrini. No, ma lasciamo stare le escort, che quella è un'altra storia. Come un'altra storia? Stiamo parlando di le escort, le signore di quelle che fanno parlare, pertanto che non si può nemmeno che si chiamassero escort. Queste hanno ovviamente una libertà, diciamo, anche una questa è gente che si guadagna, vita, che guadagna un sacco, guadagnano un sacco di soldi facendo le prostitute. No, non sono le ragazze di strada di cui stiamo parlando, di cui vorrebbero fare il quartiere a luci rosse. Quelle sono tutte sfruttate, tutte dalla per prima. Per cui Marino che cos'è? Uno vuole aiutare lo sfruttamento? Se fa io lo chiamo, no, lo chiamerei favoreggiamento a questo punto, perché se tu gli dai addirittura un quartiere dove il cliente non verrà neanche disturbato per la sua attività di acquisto di un corpo umano, ma insomma, come lo chiami? Ma l'hai sentito il camionista prima che era una persona normale? Non so se voi politici ancora, tu lo so che sei un politico atipico, però sempre politico sei adesso. E hai sentito prima il camionista, che è una persona normale, un cittadino, che dice che dopo una settimana sul camion ha bisogno di andare con una donna. Dunque, paga. Con una donna, se il camionista è manciso, la sua mano sinistra, ma lascia stare un essere umano. lo lascia. Non ho capito stare. Perché si dovrebbe masturbare invece di andare a. C'ha tutte queste impellenti necessità di 3 minuti, perché poi dopo questi sono i tempi. Ma che ne sai, 3 minuti? Somiglia di più, ma somigliava di più al mio cagnolino quando andavo in giro per strada. Insomma, questo modo di fare, abbi pazienza. C'è un cliente come un cagnolino che va a pisciare per strada. Beh, direi di sì, cioè ha esattamente questa cioè che non si tiene. Questa improvvisa. Ma non mi dici bravo a me che non sono d'accordo, per me non è così, cioè non è... Sì, vabbè, io sto dicendo come la penso io, come dovrebbe pensare il genere umano nei confronti della figura femminile, che non è lì per soddisfare dietro soldi e le nostre paturnie. No, ma il nostro Sberna, Sberna ha ragione nel merito sulla vicenda delle donne sfruttate. Vabbè, ma quello... su questo ma su questo è lo ma chi dice il contrario? Ma c'è la polizia vista, che dovrebbe esiste lo sfruttamento ragione. Della prostituzione. Dopodiché... che indaghino la polizia, i magistrati, sì, e mettessero in galera i papponi. Questo è già consentito dalle leggi che ci sono adesso. Dunque qui stiamo parlando di un'altra cosa, caro Sberna, del fatto che ci sono quartieri di città, in questo caso Roma, ma lo stesso vale per Milano, per Napoli, per altri, che sono pieni di mignotte, diciamo le cose come stanno, pieni. Allora, scusatemi un attimo, ma io ho letto sui giornali che questo pseudo sindaco lì del municipio proponeva del PD, non so qual... no vabbè sì. Insomma non è sindaco, insomma è quella cosa lì in pratica del municipio, che diceva però noi metteremo lì degli operatori sociali, metteremo lì le forze dell'ordine, controllare. Ma scusa, ma fallo adesso, no? Fallo adesso nelle stesse identiche vie, con le stesse identiche persone. No, nelle stesse identiche vie non le puoi fare. Non le puoi fare perché non lo puoi fare? Non lo puoi fare nelle stesse identiche vie. Tutti questi operatori sanitari, tutte queste porte. Ma quella è una cosa finta. Significa multare i clienti nelle strade trafficate, nelle strade abitate, e portare le prostitute in una zona a parte, disabitata, dove è consentito tutto. Occhio non veda, cuore non duole. Un po' è così. Ma gli esseri umani che ci sono dentro a questo Sberna, non si possono eliminare. La prostituzione è ineliminabile. È ineliminabile. Ma non è vero questo. Cioè, secondo lei si può arrivare alla fine della prostituzione? Ma si deve arrivare, ma l'umanità è cresciuta nelle migliaia d'anni, siamo cresciuti, ma è possibile che non riusciamo a crescere in questo, nel trattare la donna non con violenza, con sopraffazione, con facendogli mancare ogni tipo di dignità, ma trattandola per ma quello se tuo che figlio è, tu hai un figlio maschio, hai un figlio maschio? Ma ne ho 3 di maschi e 2 di femmine. Il più grande maschio quanti anni ha? 25. Allora, a 25 anni magari gli è venuto lo sghiribizzo di fare qualche puttan tour insieme agli amici, di andare non lo so che vita fa. Che ne sai? Mio figlio Francesco non se ne parla neanche. Mio Francesco una cosa se ti dice papà, scusami, una sera con gli amici sono andato a puttane. Tu che gli dici? Che gli dici? Come reagisci? Ma non ci crederei mai che mio figlio arrivasse a dirmi a farla, perché poi dirlo non ha molta importanza. È fare una cosa del genere. I figli crescono, vivono in un ambiente nuovo nel quale, grazie a Dio, qualcuno prende coscienza, sempre più persone prendono coscienza che la donna è un essere umano esattamente come lo siamo noi, non può essere vittima di sopraffazione fisica. Cioè, per te avere un rapporto sessuale a pagamento è una sopraffazione fisica. È certamente una sopraffazione, non ha nulla a che fare con l'amore. È un lavoro come un altro, fare la prostituta è un lavoro come un altro. Guarda, posso, ma faccio fatica, ovviamente, però mi metto nei panni della escort che prende il suo corpo, lo utilizza come uno strumento per fare i mille euro, cosa gli dava quello là, i 5.000 a notte, questa roba che io adesso fanno questa cosa qui, che io ovviamente per me è moralmente inaccettabile. Vabbè, ma questo è una sua scelta personale, ha trovato una persona che glieli dà e glieli dà. Ma tutte le persone, ma ripeto, tutte ma veramente il 99,9% di quelle ragazze che sono vittime di sfruttamento e di tratta. Ma quello ci sono le leggi. A 15, a 15, quello nessuno dice il contrario su queste robe qui. Io sto dicendo che ci sono. E allora andiamo a punire quei pazzi furiosi. Pazzi furiosi, perché sono un camionista, ma faccia camionista per cortesia, magari c'ha anche a casa moglie e figli, insomma, c'ha bisogno in una settimana di andare a prendere una donna, trattarla come un oggetto. Cioè, un camionista che ci ha chiamato prima, che va a puttane per strada, è un pazzo furioso, un immondo, un essere immondo, secondo te? È è una persona che davvero non ha compreso l'umanità, cioè un inumano, un animale. Sì, ma sì, perché queste sono reazioni, queste sono reazioni veramente a livello più basso dell'animale. Cioè, meglio che si masturbi. Fermi tutti, abbiamo la pubblicità. Riprendiamo, nonostante il fatto che sia al freddo, ma con i sandali, col piede scoperto, con Mario Sberna, deputato ex Scelta Civica, il quale avete visto è contro qualsiasi legalizzazione della prostituzione. Detto con il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Lo fate da parecchio. Amici miei! Siamo al top, eh? Lo scontro tra Oliviero Toscani e la Regione Veneto non è ancora finito. Oggi Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha detto che Toscani si deve scusare per davvero, altrimenti la Regione sarà costretta a querelare. Siamo sommersi dalle mail, tutti ci chiedono di andare avanti. La lettera di scuse precedentemente mandata da Toscani non va bene. È il terzo appello, dice Zaia, dopo il quale... l'avvocatura ha già mandato per andare avanti con la querela per via legale. Ma non con soldi pubblici, spero. Vabbè, l'avvocatura della regione. Vabbè, ho capito, ma dai, ma di che stiamo parlando? In questo caso per me è una follia andare in tribunale. Ma stiamo scherzando. Ha dato degli ubriaconi. Ma adesso stiamo scherzando. No, ma è sbagliato andare. A te piace un mondo così? No, dove si va in tribunale? A te piace un mondo in cui il presidente della regione, che siccome sarebbe stato offeso il popolo veneto muove l'avvocatura dello Stato per far causa al signor Toscani, a te piace un mondo l'avvocatura così? L'avvocatura dello Stato, tanto vuol dire, come è, si pagata chiama, lo stesso, è pagata lo ma stesso. Ma che cosa c'entra che è pagata lo stesso? Ma io sono contrario al fatto di andare in tribunale, te l'ho detto, dai. Però posso capire che il presidente della regione ha un ruolo politico, gli arrivano le mail di gente incazzata, imprenditori eccetera, e cerca di convincere Toscani a chiedere secondo scusa. Te gli imprenditori che, ma no, chiedo, secondo te l'imprenditore che tutto il giorno ha delle cose importantissime da fare, il fatturato, pagare i suoi dipendenti, dici non pensa a Toscani, non pensa. Oh mio Dio, bloccate la produzione, ciò è che sia un problema. Toscani che parla mai del Veneto, che vado a scrivere a Zaia e ciappa il computer, quindi scrivi, cara, scrivi, chiama Rosalinda qua, Rosalinda, scrivi a Zaia, e sei importante. Però ci sono aziende vinicole che si sono incazzate con Toscani, qua, i veneti sono persone serie, le aziende del Veneto è gente che si rimbocca le mani. Sono più seri di Zaia. Ma certo, è gente serissima. Stai dicendo una cosa gravissima. Stai dicendo una cosa gravissima. Ma è gente che si rimbocca le maniche ogni giorno e dice: vabbè. Ma sì, è gascherzà, hai gadito una putanata. Ma non si mette a scrivere le mail. Non si mette. Dai. Abbiamo con noi Mario Sberna, deputato per l'Italia. Non so che cosa sia, Centro Democratico. Per l'Italia, Centro Democratico, ex Scelta Civica. Si può dire, caro Sberna, lei che è contro la prostituzione, che sono dei prostituti quelli che sono andati da Scelta Civica al Partito Democratico? No, perché non hanno utilizzato non erano schiavi anzitutto, e non hanno utilizzato il denaro per... Beh, però hanno conservato alcuni posti. Per esempio il ministro Giannini ha conservato alcuni posti. Ma come li considera questi che sono migranti del Partito Democratico? Mi dica la verità. Ma sì, sinceramente penso che cerchino di staccare un ticket per il prossimo giro, insomma. Ah, ecco, però... appunto, un po' di prostituzione c'è da questo punto di vista. No, normalmente quando si dice prostituzione è perché sono stati, come le voci che giravano su alcuni grillini, sono stati pagati, ma no, che non no, sono no, cose no, vere, no, assolutamente. Dopo certamente, scusi, insomma, ticket, in un momento sei già in un posto di importanza, dopo di alcuni non mi stupisco, perché non so, la collega Linda. Esatto, ha ragione. Glielo dicevo già anche a lei che ha più partiti alle spalle di anni. Ma no, no? Ma che c'entra? Ma Linda Lazzato non ha mai cambiato opinione. Qualcuno gli piace continuare a spostarsi, per esempio? Cioè... Sì, va bene, insomma, no? Però voglio dire, in un momento come questo forse non ne valeva neanche la pena, insomma. E il ministro Giannini? Il ministro Giannini come lo considera? No, appunto. Beh, anche lei, immagino, cioè, secondo me potrebbe bene arrestare, anche quando c'è stata la divisione in Scelta Civica, la prima, cioè quando Mario Monti l'ha abbandonata, e quindi anch'io di conseguenza Ma lei che fa adesso? Come si trova? In una sorta di limbo? Non appartiene... Ma non è vero, noi siamo... quando siamo divisi ancora nel 90... Ma lei è in maggioranza o l'opposizione? Non ho capito più una mazza. Ma siamo restati uguali, semplicemente i cattolici, chiamiamoli così, i cattolici di Scelta Civica, sì, i cattolici parenti, insomma, ci chiamiamo cattolici perché abbiamo la fede cattolica al nostro riferimento. Vabbè, no, ma non dico niente, anzi... abbiamo formato il gruppo Democrazia Solidale, e questo è il nostro nome. Noi piaceva quel nome. 40 nomi ci sono, Democrazia Solidale. Ma che però noi piaceva quel nome lì e siamo restati in un gruppo con il Centro Democratico. Ma quanti siete in Democrazia Solidale? Ma siamo appena in 13, lo so, anch'io siamo in pochi. Democrazia Solidale insieme al Centro Democratico, sì. Nel PD non ci volevi andare? Non ci volevi andare, vabbè. Nel PD non ci volevo andare perché se devo votare, devo far parte di un partito che fa politica di centro-sinistra, non vado nel PD perché le fa di centro-destra, tanto valeva andare nel centro-destra. No? Vabbè, allora però io voglio capire una cosa. La questione della prostituzione è molto chiara. Marino, come lo giudichi? Risposte brevi adesso. Marino, come lo giudichi? Adesso, anche su una tematica come questa, io l'ho già detto una volta qui, che tutte le sere, quando vado da in stazione, ci passo per andare nella mia stanzettina per via San Lorenzo, vedo sempre lì, da quando sono qui in questa terra romana, della gente stesa a terra a dormire. Tutte le due... Come che c'entra? Ma insomma, ma un sindaco non si deve preoccupare della gente che sta morendo di freddo in questa città? Si deve occupare di tutto, ma che c'entra? Ho capito, ma di un quartiere a luci rosse o dei manifesti Roma Ama, cos'è quella roba lì che ha messo fuori adesso, spendere i soldi dei manifesti? No, delle coppie di fatto, si occupa. Ma ha fatto tre registrazioni pure illegali di una sciocchezza che non poteva neanche fare. Ma perché? Spendendo un sacco di soldi, ma come non lo può fare? Perché il sindaco non aspetta nessuno, ma gli hanno detto pure la Corte Costituzionale, tutti gli hanno detto che lui non può registrare una cosa che non esiste. Ma perché lo fa? Perché c'è dietro una lobby? Ma certo che c'è dietro una lobby, ovvio. Che lobby? No? Esiste una lobby omosessuale? Non ho capito. Cavoli, c'è, la scopro io. Non c'è la lobby omosessuale in questo paese. E chi è il capo di questa lobby? Che ne so, ci ma sarà un capo? Ma chi è il capo? Sicuramente quelli che gestiscono hanno evidentemente anche un grosso potere anche economico. Perché io, insomma, sarà, ma io di gay, di lesbiche, poveraccio, non ho ancora incontrato. Cioè, sono tutti milionari? Ma sì, ma basta guardarli i nomi, cioè i nomi e i cognomi, tutta gente che zeppa di soldi, riguarda 2, 3, 4 persone che ideologicamente vogliono mettere delle bandierine per chissà quale problema hanno avuto da bambini, non lo so, io contro la Chiesa, contro la problemi da bambini, che ne so, possono essere stati... che problemi hanno avuto. Cioè sono una minoranza, sono una minoranza, tra l'altro molto molto ben sistemata anche economicamente. Cioè tutti ricchi, stanno tutti molto bene, esatto, non hanno nulla a che fare con dei più poveri, degli oppressi, dei perseguitati, che invece sono esattamente quelli di cui stavo parlando un attimo fa, che sono lì in mezzo alla strada e dei quali non se ne occupa il sindaco, che invece dovrebbe occuparsene. Di quelli sì, perché quelle due signore anziane che sono lì fuori da stazione Termini da quando io vado avanti e dietro, ma chi ci pensa queste due signore? E invece tu dici il sindaco si occupa si occupa di questi qui, dei no? stanno benissimo, non hanno bisogno di niente, perché di registrare una roba che sono andati a fare New York, avendo i soldi ovviamente per andare a New York, perché anche quello ci vogliono i soldi per andare a New York, una roba che non serve a niente, però lì la fai, ci metti i manifesti a Roma, guardate che bella cosa che ho fatto. Però scusami, Sberna, ma tu ce l'hai in Parlamento anche alcuni omosessuali, sono tutti ricchi, pure quelli che stanno in Parlamento. Già solo il fatto di stare in Parlamento significa essere ricchi in questo paese, si prendono 13.000 euro al mese. Scalfarotto, che è il sottosegretario, è ricco Scalfarotto? Vabbè, grazie, prende 13.000 euro al mese, ci mancherebbe che non è ricco. 13.000 al mese, Vabbè, ho capito, cioè lui è l'emblema del fatto che c'è una lobby omosessuale, dici tu. Ma non è l'emblema, lui è uno di quelli, certo, è uno come prima di lui, la Consola, la Luxuria, tutta gente a 13.000 euro al mese, perché questo che mettiamo in tasca. Non è che facevano solo questo. Che c'entra, però, di lavoro Scalfarotto lavorava a Londra. Anche lui sì, era un manager, sì, effettivamente era un manager in una multinazionale a Mosca. Ma che c'entra, ma lavorava, non è che ha fatto politica tutta la vita. Ma guarda, Parenzo, ma guardiamo tutti i nomi, dalla A alla Z, tu me ne trovi uno per cortesia di quelli povero, che non arrivano alla fine del mese. Poveraccio, non c'ha mica tempo di fare il gay uno che non arriva alla fine del mese, non c'ha tempo. Ma come c'è tempo? Adesso non c'ha ma tempo, che vuol dire? Non c'è tempo? Che vuol dire, Sperna, che vuol dire non c'ha tempo di fare il gay uno che non arriva alla fine del mese? Ah, tu dici uno che non ha... Ma io conosco un sacco di gay nei locali che hanno operai, un sacco di gente che gli piace... Non che fai gli piace, no, ma... che gli piace, scusami se te lo dico, caro Sberna, conosco un sacco di gente, amici, che gli piace il cazzo... No, lo dico, gli piace, piace il pisello. No, gli piace il pisello, vabbè, ma potrà, vabbè, potrà uno, no? Che sono in realtà operai da 1200, da 1300 euro al mese. Ma non sono mica quelli che vanno nei giornali o nella televisione. Ah, tu dici quella è la lobby, diritti, la lobby. Ci mancano i diritti, abbiamo bisogno dei diritti. Cioè, ma quali diritti? I diritti sono quelli dei poveri, degli immigrati. Sì, ma che c'entra quello che fai sotto le coperte? Senza cibo, senza coperte, senza. Ma uno può essere qui, senza cibo ed essere omosessuale, ma che c'entra? Ma Sberna, ma secondo me hai preso freddo stanotte lì fuori dalla camera? Sì, ti si è congelato freddo, il cervello, Sberna? No, devi svernare, Sberna, perché Parenzo, si è congelato a tutti quelli che sono in mezzo a una strada da anni e qui se ne fregano tutti, tutti, non sanno neanche. Ma ho capito, ma non c'è nessuna correlazione. Io ti seguivo sulla prostituzione, ma qui non c'è nessuna correlazione. Parenzo, la smetti di preoccuparti dei gay e cominci a preoccuparti facendo un servizio da Stazione Termini di quei poveri cristi, sì, sono lì per piacere. Però Sberna, voglio chiederti una cosa. C'entra, non è che una cosa interattiva. Ma cosa c'entra? Puoi continuare a dire cosa c'entra? Continuiamo a non preoccuparci delle vere emergenze. Ma non è in alternativa all'altro, cosa c'entra? Ascolta, dai una priorità, per cortesia. C'è una priorità di povertà, di miseria, di sopraffazione che deve avere la preferenza. Quindi i giovani disoccupati, le persone senza casa, senza, non arrivano a firmare. Scusa, ma i quartieri gay. Va bene, ma i quartieri gay, come li consideri te, le zone gay? A Roma ce ne sta una, per esempio, ci sono un sacco di città. Come li consideri? Dei ghetti, come li consideri? Non lo so. Ma no, ma si divertono, lì che mangiano e bevono, di tanto passo, fanno fuori le loro belle bandierine, mangiano, bevono, si divertono, fanno i loro belli aperitivi, i loro spritz. Dov'è il problema? Cioè, voglio dire, vivono ci mancherebbe pure in amicizia, ma appunto, infatti, in amicizia, in affetto, in amore, chiamate tutto quello che ne avete. Vogliono venire a dirmi che quello lì è un problema, che è mancato. Ma si possono, voglio dire, si possono baciare per strada o no? Si possono baciare per strada o no? Ma certo che si possono baciare per strada, non mi interessa, a me se si baciano per strada. Cioè, se tuo figlio viene a dirti che è gay, che succede? Niente di mio figlio non è gay, sta con Alessandra, gli vuole bene, la vuole sposare. Non Beh, è ma gay. Se ti dicesse che è gay, qual è il problema? Ma nessun problema, cosa posso farci io? Cioè, io voglio bene alla sua mamma, ho fatto lui con la sua mamma, l'unico modo per poter fare lui era farlo con la sua mamma. Ma questo non c'è dubbio. Lui è un bambino, quello che ti dica. Però no, con Francesco il problema non si può. Daniele amoroso non ce l'ha. Ho capito, ma se ti dicesse, se dicesse al signor Mario Sberna, io sono omosessuale, mi piacciono gli uomini o mi piacciono le donne se c'è una figlia, la tua reazione quale sarebbe? Che c'è bisogno di andare dal medico? Che cioè, no, ti do una carezza sul volto? Che ne so, qual è? Ma sì, prenderei atto, cosa vuoi che ti dica chi? Cioè, posso mica. Cioè, gli racconterei. Sarebbe una disgrazia o no? Ma no, non sarebbe una disgrazia, dai, non esageriamo. Non lo so io non lo so come la pensi su questa cosa qua. Ma no, sinceramente non può essere una disgrazia. Senti, voglio chiederti una cosa importante. Le disgrazie sono le altre, sono quelle che non hanno il cibo, non hanno da mangiare, sono disperati. E questa città, questa come tante altre, semplicemente si disinteressa che deve occuparsi di registrare le unioni fatte a New York. Questo è il problema. Questo. Senti, Mario. Sta piangendo in questo momento in questa città e il sindaco si preoccupa di andare a registrare. Ma adesso c'è una deputata del PD che non so che cos'è, la Cirinà, che dice che presto si faranno riunioni civili, lo dice pure Scalfarotto, ci sia. Senato, certo, sì, perché quella diventa la loro priorità. A marzo inizia la Quaresima e per signor fare Scalfarotto, allora, signor Scalfarotto, ecco, signor Scalfarotto, l'onorevole Scalfarotto, sottosegretario, dice che a marzo senz'altro arriverà questa grande priorità per il paese. A me piacerebbe prenderlo sotto braccio e dirgli: adesso tu vieni con me in Stazione Termini, appidate nel sedere, vieni con me in Stazione Termini, guardi in faccia questa gente e mi dici qual è la priorità c'entra di questo paese. Ma non vuol dire niente, Sberna mio, come ma non vuol dire niente. Soffrendo, soffrendo. Cioè, ti rendi conto che una cosa è una riforma a costo zero, un'altra è una riforma necessaria in cui ci vogliono soldini. Ma come fai a non capirlo, Sverna mio? Ma scusa, una cosa è una riforma che dà diritti ed è gratis. Per fare quella cosa lì, per fare quella cosa lì che tu chiami gratis. Ma io sono d'accordo con te. Ma quali soldi? Io sono d'accordo con te. Ultima raffica di domande, poi lasciamo Sverna. Se non muore di freddo. Allora, Sverna, io voglio capire se consideri l'aborto un crimine. In poche parole, certo. Un crimine. È un omicidio, non è un crimine. Un omicidio. Peggio, un omicidio. Dunque, sì. Dovrebbe essere cancellato l'aborto. Sì. Cancellato dalla legge. Come un essere umano che viene ucciso nel suo momento di maggior debolezza. E perché la Chiesa dal ventre della madre. Benissimo. Dunque, chi pratica l'aborto, i medici sono gli assassini. Non lo so, come li consideri? Esatto. Assassini è una parola, però certo, commettono un omicidio. E l'utilizzazione del condom, perché la Chiesa non favorisce l'utilizzazione del condom per evitare l'AIDS? Scusa, spiegami. Ma insomma, non mi sembra che non la favorisca. No, il condom no, il condom, il preservativo no. La Chiesa è contraria all'utilizzazione del preservativo. Scusa, mi abbia pazienza. No, ma sai, poi le dichiarazioni ufficiali, sono stato, lo sai, 4 anni in America Latina come volontario, ti assicuro che in America Latina il problema non si poneva, semmai si insegnano i metodi. Ma tu sei d'accordo o no? Sei d'accordo o no con l'utilizzazione del preservativo? Io preferisco i metodi naturali perché se mi sono fatto che non hanno un costo e sono altrettanto efficaci. Quali sono questi metodi naturali? Scusa, per evitare. Ovviamente la temperatura e i giorni fertili o non fertili, basta insegnarli, si imparano. No, d'accordo, però non è matematico. Ma c'è anche le malattie, c'è anche l'AIDS, c'è anche la questione dell'AIDS. Sì, ma c'è l'AIDS, per cui certamente nelle zone in cui l'AIDS è diffusa è necessario utilizzare preservativo. Oh, meno male. La donna deve essere un po' sottomessa, secondo te? Come dice il signor Adinolfi? Lo dice Adinolfi, il caro Adinolfi. No, se vai l'ha detto, però in un altro senso nel libro la Costanza Viriano. Ma è un po' la donna sottomessa all'uomo, diciamo, un po'. No, ma no, assolutamente. C'è una parità. Allora, riprovere. Maschio e femmina li creò, maschio e femmina li creò. Ti abbraccio, ciao, presto, ciao Mario. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Spettacolare, spettacolare. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfregata. Allora, caro Parenzo, uno comunicazione di servizio, cara Elisabetta Fiorito, cara Elisabetta Fiorito, arrivo al dibattito non prima delle 9:05, grazie, scusami, non prima delle 9:05, cara Elisabetta Fiorito, grazie, se ci ascolti. Ma chi se ne frega, chi è? Elisabetta Fiorito è una collega di Radio 24. Sì, quello lo so, ma che c'entra? Non ho capito. Abbiamo un dibattito alle 8:30, io ho detto che arrivavo alle 9:10. Adesso glielo dici, scusa. Come? Adesso glielo dici. Faccio la comunicazione di servizio. No, ma adesso glielo dici, si sa che... Beh, sì. Ma no, ma è incredibile. Però, comunicazione Vabbè, di servizio. Allora, fermi tutti. Con Amos Guetta organizzato, no, di ma tutto chi se ne fotte. Fermi perché, tutti. Perché devi dire così di Amos Guetta adesso? No, ma non mi interessa a me. Perché devi parlare male di Amos Guetta? Voglio piangere, fammi piangere. Ma lo pagate voi, fammi piangere. La questione del benzinaio. La famiglia Cassol, famiglia italiana di nomadi. Attenzione. Questi Cassol, avvicinati dal bravissimo giornalista di Quinta Colonna, dicono che Coletti era? Non lo so. No. Dicono doveva farsi i cazzi suoi il benzinaio, ti giuro, i signori Cassol. No, amici beh, un po' esagerato. Amici miei. Sì, questo. Quindi doveva farsi i cazzi suoi. Ma voi lo sapevate che Albano faceva ancora queste cose? Cosa? Le rapine. Ma senta qua, chi è senza il peccato? Scarica la prima pietra. Lei, quando era ragazzino, non l'aveva mai rubato. No, capito, ha 41 anni però Albano aveva. Ma vedi, da ragazzino non l'ha mai rubato. Beh, non so se avete sentito, ma lei da ragazzino non ha mai rubato? Beh, diciamo no. Sì, magari qualche piccolo furtarello in un supermercato, una caramella, una cosa così al limite, adesso non me lo ricordo, magari qualche puttanata l'ho fatta pure io, non credo, Però insomma, no, io da ragazzino non ho mai rubato, caro signor Cassol. So che voi nomadi magari siete un po' avvezzi a queste cose qui. Dico avvezzi per non farmi querelare. Siete abituati, diciamo, a vedere furti, ecco, la metto così, se altrimenti mi querelate e Zuinisi mi fa due coglioni così poi in tribunale. Cioè mi fa perdere tempo, perché poi nessuno verrà mai condannato perché sostiene che tra i rom c'è una percentuale molto alta di ladri. Ma non si può dire il benzinaio si doveva fare i cazzi suoi. Dice anche che il benzinaio deve pagare questo signor Cassollo, che non so se sia un fratello o il padre, non so chi sia. Sapete già la storia? No, la storia lo so, però non conosco il vostro punto di vista, non conosco. Il nostro punto di vista è che il benzinaio adesso deve tenere solo a pagare, basta. Deve pagare, noi siamo arrabbiati. Pagare soldi? Pagare, perché abbiamo già preso due avvocati. Allora andiamo a Marco da Roma, vai Marco. Allora Cruciani, ti leggo due righe e fermo, non mi interrompere. Sì, dimmi. Lo Stato italiano è stata una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l'Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati, tentarono di infamare col marchio di briganti. Antonio Gramsci. Glielo dica a Parenzo. Antonio? Gramsci. Chi è Antonio Gramsci? Siamo veramente a parlare. Si chiama Gramsci, però. Ma Gramsci, no, Grami. Ma non Gramsci. Scusi un attimo, si calmi. Ma non Gramsci. Beh, è diverso, scusi. Io lo pronuncio così perché la mia lingua non è l'italiano. Non la è Antonio Amish. Gramsci! No, ma scusa Marco, non ho capito. Tu sei, anche tu appartieni ai neoborbonici per caso? A parte che lei usa spesso questo termine senza cognizione precisa di causa, perché il termine borbonico lei lo usa in senso dispregiativo. No, dico neoborbonici così per un dato di fatto. Io sono Marco Bramato, appartengo tranquillamente al movimento neoborbonico. Si vede, ho capito, mica la camorra, infatti, va benissimo, appartengo tranquillamente. Ecco, certo. Ecco, giustamente, quando parlo di movimento neoborbonico, per qualunque motivo lei ne parli, non utilizzare mai quella parola camorra mafia. No, ma non c'è cognizione di causa per il motivo per cui la debba utilizzare. Gramsci, sì, certo, appunto, sarà orgoglioso di appartenere a questa associazione qui. Ma bene, ma lei non può associare una parola di un'associazione culturale ad un'associazione criminale. Ha detto benissimo. Non si può permettere. Vabbè, Marco, nessuno ha accostato la camorra ai neoborbonici. Ma chi si è permesso? Detto questo, voi state tirando una corda. Sto tirando che noi una corda. Non possiamo regolare. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso che ci sono molte persone incazzate con voi. Sì, bene, ottimo. E che non sa mai come è successo in passato. Che come succede? È successo in passato per questioni politiche. Sì. Non si sa mai se esce il pazzo. Cioè, detto questo, cosa vorresti dire, Marco? Non ho capito questa velata minaccia. Non ho capito la minaccia di Marco da Roma dei neoborbonici. Non sono minacce, non sono assolutamente delle minacce. Io le sto dicendo che lei deve parlare di associazione culturale in termini educati, pacati e non criminosi. No, scusi, Marco. C'è un piccolo dettaglio che lei non ha ancora bene afferrato. In fondo, lei rappresenta, come si chiama di cognome lei, scusi, signor Marco? Io sono Marco Bramato. Marco Bramato, io non capisco perché ancora i suoi familiari non si sono interessati al suo caso, però lasciamo perdere. Il mio caso rappresenta un caso culturale che non c'è dubbio. Come Pino Aprile. Pino Aprile, ma non c'entra, guardi, Pino Aprile non c'entra niente con lei. Si chiama Lorenzo Del Bocca, che riguarda persone come Paolo Malanima, che riguarda persone Gramsci. Allora Marco, io voglio dire una cosa, caro Marco, il punto fondamentale è che io dico e parlo come mi pare, non me lo faccio dire da lei. Ma non può permettersi di offendere in continuazione un movimento culturale che oggi fa sicuramente uno sforzo intellettuale notevole. Ma non esiste questa roba qui. Culturali italiane che sono filosofiche. Ma non esiste il movimento neoborbonico! Non esiste! Non esiste! Non esiste i neoborbonici, non esistono! Io esisto! E quindi esistono i neoborbonici, cazzo! Ma sono quattro gatti, dai, su! No! Le faccio un regalino intellettuale. È nata due settimane fa una pagina che si chiama Terroni di Pino Aprile, che ha ripreso il suo libro. Sì. Ecco, in soli 5 giorni arrivati 10.000 contatti. Sì. Siamo per i 14.000. Guardi, io le dico, faccio una scommessa, ci risentiremo tra un anno, va bene? Prendiamo questo appuntamento. No, scusi Marco, non ho capito la minaccia, che ha fatto prima. Non sono minacce. Ha detto c'è un sacco di gente contro di noi. Io sentendo persone sui social media ascolto persone che dicono nefandezze. E questo perché? Perché ci sono persone come lei che giustamente non si regolano perché adesso la regolata me la deve dare lei. No, io non la devo regolare. dei neoborbonici, i neoborbonici. Ma di che cosa stiamo parlando? Sul genocidio del sud. Ma smettila. Oggi ricorre, benissimo, ha preso proprio un argomento preciso. Oggi ricorre la giornata della memoria delle foibe. Ma quale? Cioè, sì, certo, quella è una cosa seria. Le fenestrelle, può negare che c'è stato Ponte Landolfo, può negare che c'è stato Casalduni, può negare che c'è stato Bronte, può negare che c'è stato Tarsa. Andiamo con l'ambulanza. Andiamo con l'ambulanza, amico mio, andiamo. Può negare che c'è stata la legge Pica? Vai. I suoi familiari si prenderanno cura di lei. Guardi. I suoi familiari si prenderanno cura. Di cura mi prendo io, non c'è bisogno dei suoi familiari. Ciao Marco, ciao. Sì, vabbè, non è che possiamo fare tutta la puntata sui neoborbonici, amico mio. Ci risentiamo in un altro momento, ciao. Mi raccomando, le fiale sono già pronte. Ne basta una piccola stasera, così si calma un po'. Reduce da Strasburgo, ultima impresa, ha detto alla Mogherini in faccia: lei non conta. Cosa hai detto, Gianluca? Buonasera, ho detto: lei non conta un emerito cazzo. Beh, caro padre, chiedo scusa a tutte le autorità civili, politiche, militari, eccetera, eccetera, però lei non conta un cazzo. Che è la verità, però, Parenzo, perché dobbiamo dire che l'alto rappresentante dell'Europa non conta assolutamente nulla. Raramente si è visto un commissario più attivo di lei, della Mogherini. Difatti da Putin c'è andata la Merkel con l'Hollande. Allora, se servono loro due, la domanda che gli ho fatto oggi a Strasburgo è: sì, se Hollande e la Merkel vanno da Putin e trattano per cercare di trovare una soluzione, cosa serve l'alto rappresentante come lei, sa, caro protagonista del circo, ha preso delle posizioni molto dure contro Putin, ma non è questo il tema. Ha preso delle posizioni precise contro Putin, perché la Russia non la voleva in quel ruolo. Ha funzionato la trombetta o no? Appunto, manco quella ha funzionato. In parte, perché dovevo scuoterla meglio, cavolo. Non è che doveva scuoterla appunto, meglio. Non sono arrivati i camion in tempo. Cioè, siccome il Parlamento europeo era a Strasburgo e non a Bruxelles questa volta, il circo Buonanno non è riuscito a trasportare i camion con tutti gli attrezzi del circo da Bruxelles a Strasburgo. Dici sempre le stesse cose, però. Dice sempre le stesse cazzate. Sì, però è così, perché la trombettina, la cosa più divertente e anche agghiacciante era la voce del presidente del Parlamento europeo. Sì. Che era imbarazzato e aveva quel tono, fallo risentire Cruciani, e aveva quel tono come dire: entrino per cortesia gli inservienti in camice bianco. Europeo, che c'è qualcuno, erano imbarazzati. Detto, qua mi sembra di essere Who is this Buonanno? Who is this Buonanno? Allora, is a member of parliament? Scusa, perché non ha funzionato però sta trombetta? Is a member of parliament? Is a member of circus? Perché dovevo scuoterla di più, ha suonato un po', ma può fare meglio. Quindi, manco quello sai fare. Manco suonare una trombetta, guarda. Ti paghiamo 12.000 euro ormai acclarato per fare il circo equestre e manco una trombetta sai suonare. Sì. Avevi almeno il cappellino a punta colorato e il naso rosso? No, comunque, manco quello. Un circo a risparmio. Vergognati, vai a lezione da tutti. Europeo, oggi si parlava dell'Ucraina e prima parlavano di un altro importantissimo che è il Congo. Ma se neanche dove sulla cartina geografica il Congo lui. Allora, c'erano per il Congo, sulla questione del Congo con la Mogherini, non più di 40 deputati su 51. Sull'Ucraina, dove tutta l'Europa, l'Ucraina, quanti erano? Ne ho contati, erano intorno ai 65. Ma ho capito, ma il problema è quello che questo Parlamento europeo non funziona, non serve a una massa. Infatti, succhia solo soldi e basta. Succhia solo soldi e basta. Ma sono io, sono sempre io che ti scuola. In diretta da Strasburgo, eurodeputato della Lega Nord Gianluca Buonanno, rimproverato. No, sono sempre io. Sì, lo so. Sono sempre io. Lo so che sei sempre tu. Eurodeputato. Perché? Qual è il problema? Non ho capito. Fa politica a modo suo. Che figura. Non si può neanche un po' scherzare, mamma che mia. Che figura che abbiamo fatto davanti a tutti i colleghi dell'Europa. Perché non funzionava la trombetta? Non ho capito. Qual è il problema? Forse manco quella funzionava, capito? Ma manco quella. Ha funzionato parzialmente. Diciamo che uno dovrebbe far diciamo, se fa una cosa del genere, bisogna che funzioni al massimo. Fa la bischerata. basta. Comunque, vabbè, hai dato della. Comunque, dai, ennesima figura di merda, dai. No, ma perché? Beh, dai, diciamolo così chiaramente: ennesima figura di merda, dai, su. No, te lo facevi tu sicuro. Ma cosa fanno i nostri deputati? Senti, suonano le trombette. Caro Gianluca, ma intanto io ero presente, ti dico anche di più. Fai risentire il 98%. Vabbè, questo è buono. 98% di cazzate, però. Scusami, no, 98%. Cioè, tu stai dicendo, Parenzo, che è meglio uno che non ci va piuttosto che andare a fare queste sceneggiate? Ma assolutamente sì, facciamo più bella figura. Uno almeno non ci va, dice cazzo, non ci va. Ma se uno va e sul 98% delle presenze ha il 98% di cerchio di fuoco, di ruba quadri, di pallini, di robe, coriandoli, e tira fuori quella roba e poi quello. Ma io quell'altro. Voglio chiedere una cosa a Gianluca, che è questa, ma fai sentire l'imbarazzo del presidente. Oddio, sì, della, adesso faccio dell'aula. Sentire, non mi fare una testa così con questa fallo cosa qua. Un guarda, a differenza di Parenzo, preferisco le persone che fanno delle cose un po' strane, ma che cercano di portare l'attenzione su quello che non è capace di fare l'Europa, rispetto a quei falsi moralisti, quegli ipocriti che si vedono tutti per benino e poi sono magari dei ladri, oppure se ne sbattono altamente della gente e vanno solo a cercare quando è il momento del voto. Ecco, c'è una differenza. Allora, stasera inizia Sanremo, nei prossimi giorni, caro Gianluca, ci sarà la signora Conchita Wurst, che tu hai già visto all'opera, non so se l'hai vista, poi al Parlamento Europeo. No, l'ho vista, ma è venuto, sì. Ecco, ma che ne è pensi? È venuto perché è un uomo. È venuto, sì, adesso è venuto, è pure ambigua come cosa. Ah. Però voglio capire se come consideri questa presenza a Sanremo della signora Conchita Wurst, che è un travestito con la barba. Con i soldi pubblici si invitano persone del genere, sono soldi buttati nel cesso. Vabbè, è un artista che chiamo, non Wurster, io la chiamo. Perché Wurster? Perché Wurster, scusa? Perché è un maschietto, no? Un Wurster. Wurster. Ma perché dici che ha un Wurster tra le gambe, dici, no? Ma non lo so io, però da Wurster è comunque in segno. Ho capito, ma è una vergogna, che la televisione pubblica in prima serata, adesso non so a chi la manderanno, abbia la signora barbuta, cioè il signore barbuto. Io avrei speso i soldi in altra maniera piuttosto che invitare. Pare che sia costato 120.000 euro. Ma se spendiamo i soldi per delle trombette che neanche per te e per le trombette che manco soldi, funzionano. L'ho pagato con i miei soldi, non cioè se comunque spendiamo i soldi per questo, per te, non possiamo spendere la trombetta per il te la metto su per il sedere, così magari ti piace. Ecco, deputato della Repubblica, No, eurodeputato, scusami, Però a proposito di omosessuali, fanno venire di tutti. Eurodeputato. Però a proposito di omosessuali, qualcuno nella Lega la pensa diversamente da te, eh? Per esempio il sindaco di Verona Tosi ha istituito il registro per le coppie anche gay nella sua città. Guarda, lui è sindaco, io sono sindaco, lui è in una città più grossa e un po' più piccola, però ognuno ha la sua idea. Dopodiché vedo che il presidente della Repubblica l'hanno nominato come io ho richiesto, e Sgarbi l'altra sera mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che hanno proprio scelto quello che dicevi tu, cioè perché vi ricordate che io ho detto l'importante è che il Presidente della Repubblica non sia musulmano né omosessuale, e quindi mi hanno già accontentato. Vabbè, questo non era difficile, diciamo, non c'era nessun però gay. Sgarbi l'ha detto, queste cose qui le diceva anche Pertini, quindi non comunque anche Pertini, anziché siccome ti sei definito amico di quella carogna di Putin, in questo momento ti informo che mentre carogna, mentre tu suoni le trombette al Parlamento Europeo, alla Parenzo, nostra posso dirti, le ministra, le prendo che sei stato capace ci di sono rimanere dentro un campo di concentramento i razzi, dopo 70 vabbè, anni che era chiuso, per amor del cielo, ma prendiamo lezioni di furbizie da uno che è andato in un campo di concentramento a fare lì un servizio, è stata colpa dentro, dei e poi dopo servizi sei stato anche polacchi, polacchi. Sì, certo, ma è stata, infatti c'è una vicenda in corso in cui i polacchi che gestiscono quel campo l'hanno gestito malissimo e ho denunziato tutto. Ridi. Ho denunziato tutto, come no? Sì. Torniamo, scusami, il tuo amico criminale Putin in questo momento sta facendo scoppiare la terza guerra mondiale mentre tu sei lì a metterti i nasi rossi e a suonare le trombette. Hanno lanciato dei razzi sui civili in Ucraina, ti informo, in questo momento. Ma tu sei dalla parte di Putin contro l'Ucraina, Gianluca? Sei dalla parte di Putin contro l'Ucraina? Certo. No, vabbè, io sarei un matto a dire so esattamente tutte le cose, non sono stato presente, eccetera. Ma sei con Putin, contro l'Ucraina sei con Putin? No, io dico questo, che c'è una parte dell'Ucraina che è filorussa, che ha fatto un referendum, votato al 97% in cui hanno detto che volevano essere annessi alla Russia, e quindi secondo me se ci sono dei popoli che vogliono modificare. Sì, ma tu stai con i missili che stanno, stai con i missili, i missili filo russi sugli ucraini, tu mentre giochi con i nazi e le trombette. Il presidente degli Stati Uniti, che è Nobel per la pace, che vuole portare le armi lì e che voleva bombardare anche la Siria, ecco, quello sì che mi fa molto, molto. Vabbè, felice. Senti, però io voglio chiederti una cosa: perché se ce l'hai così tanto con Totorrina, che sei stato ricoverato a Parma in ospedale? Scusa, spiegami. Perché una persona, e dire troppo, secondo me è una bestia che ha combattuto lo Stato per decenni e decenni, è stato il mandante di più efferati, certo. Capo dei capi, capo dei capi, Falcone, Borsellino e le scorte, ma tante altre persone. Ah, adesso è lo Stato che gli dà tra virgolette una mano. Io innanzitutto non l'avrei portato gli dà una mano, di Parma, così come è stato ricoverato per ischemia, ma l'avrei portato dal veterinario, essendo uno essendo una bestia, dice. Cioè, uno del genere io non gli darei niente. E guarda che è incredibile, a far vedere alla gente italiana, quelli che si comportano bene, pagano. Ma noi non tasse, siamo l'ISIS, dove abbiamo noi persone che stanno in corsia. Ma lo Stato italiano non è l'ISIS, è soccorso per 24 ore di seguito senza essere curati. Curiamo prima i nostri portatori di handicap, i nostri anziani. Ho capito, però se uno sta male dentro la galera, che fai? Deve avere le cure dallo Stato, altrimenti se le vuole paga fior di soldi, paga tutto, non che adesso c'era ancora gratis dallo Stato, perché quella persona lì non paga niente. Vabbè, ho capito, ma se uno sta male in carcere come Rina, secondo te è meglio non che me muoia? Ne frega. Uno come ecco. Meglio sarebbe che muoia in carcere. Cosa, ecco, meglio non che è l'ISIS. Muoia in carcere. Sarebbe il suo destino giusto. Sarebbe suo ma destino noi non giusto. Siamo l'ISIS. Però, scusa, a questo punto voglio chiamare l'avvocato. Voglio chiamare l'avvocato di Rina, perché Murano ha detto una cosa. No, ma diglielo, è una pazzo. Una cosa incredibile. Ha detto una cosa molto chiara. I detenuti chiara, hanno no, diritti, chiara. Non è che perdono i diritti. Io sono sicuro che quello che dice Murano è condiviso da un sacco di gente. Però, ma che cosa vuol dire? No, ma anche le leggi razziali furono condivise da un sacco di gente. Ma che vuol dire? Ma spendere i soldi pubblici per uno così. È incredibile. Ma bisogna spendere i soldi poi ma i detenuti hanno diritti, ha lasciato morire in carcere secondo ma te deve marcire in galera, punto, con tutto quello che ha fatto. In più non si è mai pentito, si fosse almeno pentito, no. Ma noi non siamo il califfo che non hanno danno. I nostri detenuti hanno per fortuna dei diritti. Questa è la differenza tra i barbari e le civiltà. Questa è la differenza. Se governassi io il paese, alcuni diritti non ci sarebbero più, perché a forza di avere diritti si dimenticano i doveri. Comunque, secondo te Rina, invece di essere portato all'ospedale maggiore di Parma, doveva marcire in carcere, doveva morire in carcere? Assicuro. Dunque è meglio ammazzarlo direttamente. Scusa, è meglio ammazzarlo direttamente. Perché farlo stare in carcere? Ammazziamolo direttamente, facciamogli una siringata, è più semplice. No, vorrei chiedere a Parenzo, faccio una domanda a Parenzo. Lui l'avrebbe curato Mussolini, lui che è tanto buono, l'avrebbe ma curato. Che cosa c'entra? No, ma di che cosa parli? Per cui non ho capito, Mussolini. Ma secondo no, tu l'avresti curato Mussolini o no? Perché non distinguono le cose. Parenzo, l'avrebbe confortato Benito Mussolini, fosse in quel periodo. Scusami, lì, intanto era tu un'altra oggi. Epoca storica. Il diritto epoca. Oggi prevede. Due pesi, era due misure, no, no, nessun due pesi, due misure. È un'altra epoca. Io sono contro la pena di morte. Io sono contro la pena di morte, quindi sono contro la pena di morte. Però quella quando impiccarono Mussolini e i partigiani lo presero, era tutta un'altra epoca. Oggi viviamo in un paese. Non l'hanno impiccato, prima l'hanno ammazzato. Benissimo, benissimo, benissimo. Dopodiché il nostro paese vive di una civiltà giuridica che prevede anche per il criminale più terribile il fatto che nonostante viva al 41 bis, cioè al carcere duro, se sta male può essere curato. Questa è la civiltà e io questa Petacci, la difendo. E cosa c'entrava la Petacci? Ma che cosa c'entrava? Ma questo Petacci? È stupido. No, ma dimmi, la Petacci? Ma no, cosa allora, c'entrava? Fermi cosa tutti, voglio capire una cosa. Io voglio capire una cosa. Tu voglio... Parenzo parli a seconda di dove posi il culo. Ed è sbagliato. Ma guarda, ti ho appena risposto, ti ho detto che noi abbiamo dei diritti rispetto agli anni 40. Noi abbiamo un diritto che si è evoluto e che ha altri parametri. E reputo giusto che i detenuti in carcere vengano curati. Cioè, hai capito? Curato. Invece come le foibe, altro. Che voi comunisti le fate foibe. Fatica ancora a ricordare le foibe. Ma fate cosa dici? Ma voi comunisti che oggi è la giornata delle foibe. Guarda che il biglietto. L'abbiamo, lo spettacolo, io non ho chiesto il secondo spettacolo e ne ho visto uno, mi è bastato. Perché tu fermi tutti qua. Buonanno sostiene una cosa: sostiene che Totò Riina non va portato con l'ambulanza all'ospedale maggiore di Parma per essere curato. Anche se curava gli attentatori del supermercato, no? quelli che hanno tentato contro gli ebrei al supermercato ebraico di Charlie Hebdo. No, cosa vuol dire se li curano? Se li ammazzano, se li ammazzano. Io li volevo in galera. Io li volevo a marcire in galera quelli, mica sulla sedia elettrica. Che voglio io, io li voglio in galera. Dopodiché, se quelli intanto sono morti in una sparatoria, se quanti vanno spesi, ma per cosa le c'entra? Che hanno difficoltà. Non riesce a capire la differenza tra un sistema giuridico che tutela i diritti anche dei detenuti. Devi andare fino in fondo. Allora è meglio. No, buon anno. Devi andare fino in fondo. Cioè, bisogna a questo punto, per evitare tutte le complicazioni, gli ospedali eccetera, fare una siringa e uccidere in maniera, come dire, Totò Riina in galera, perché lo dobbiamo. Guarda, di soldi ne ha fatti spendere tanti quella persona lì, ha ammazzato un sacco di persone, non si è mai pentito, forse per me sarebbe già sottoterra, sicuro. In forse che modo? Come possiamo fare adesso? Come possiamo fare? In questo momento? È malato. Problemi sì. Suoi, con quello che ha fatto, manco se pentito, sta in galera, sta in cella, punto e finito. Guarda che i suoi giorni finiscono. Ma se uno chiede aiuto, se uno chiede dello Stato, quella di curare il criminale, è la vittoria dello Stato. Tutto quello che ha, perché tutto quello che ha l'ha fatto con la Ma non c'è più niente quello. Cioè. Non c'è più niente. Sì, perché il prestanome e tutto quello che ne consegue. No, voglio dire, cioè, tu dici ogni cosa sanitaria deve essere pagata in maniera salata. Deve pagare tutto. Paghi tutto. Cioè non andare tutto, all'ospedale pubblico, lui non paga niente, è curato oggi gratis, mentre noi abbiamo anziani, portatori di handicap, gente che non ce la fa, che non può essere curata e che deve pagare il ticket. È Ma una vergogna. C'entra? Rita così, non va bene. Quello deve marcire in galera. Fermi tutti, vuoi fermi qualcosa? Tutti. Paghi, strapaghi. E non vai però all'ospedale di Parma. Allora, Beatrice, Firenze, vai, Beatrice. Giuseppe, ciao. Ascolta, ho chiamato perché hai accostato la mia voce al politico di Roma che parlava di prostituzione. È la seconda caduta di stile che ha nei miei confronti. Faccio parte, sai, del gruppo di Riccardo da Roma, la Siniscal, che mi ha chiamata perché non sentivo la trasmissione, perché siamo una famiglia. Guarda, innanzitutto, Beatrice, e mi ha detto che hai accostato la mia voce alla prostituzione. Ma no, ma è omesso, non c'entra niente. Come la penso io, sai benissimo come la Beatrice, stai tranquilla, stai tranquilla. Allora, tu sei una transessuale di Firenze, sei una grande fan della Zanzara, va benissimo. Esatto. Non c'era nessun accostamento, perché noi non accostiamo, quando mandiamo le piccole voci tagliate, eccetera, eccetera, non hanno nulla a che fare con l'argomento di cui stiamo parlando, sono completamente decontestualizzate. Per è cui... stata la seconda caduta di stile dopo Vabbè, che Aridaie, quando mi ha detto la foto mia che non ero cambiata. Ma comunque, se ti ho detto che non c'era nessun riferimento. Voglio bene alla tua... ascolterò sempre la Zanzara. Ma lo so, non sei una prostituta. Ma che so pazzo. Appunto, ma chi ha detto che sei una prostituta? Nessuno l'ha mai voluto. Ma chi è? Alessandro, provincia di Varese, vai Alessandro. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi, buonasera, dimmi Alessandro, dimmi. Io volevo portare il mio contributo di quasi addetto ai lavori nel campo della prostituzione. In che senso? Nel senso che io lavoro come musicista in alcune... chiamavano le case di tolleranza nel canton Ticino. Siamo al top. Ma che canzoni fai? Cioè, sei al piano bar? Che fai? Esattamente, sì. Beh, ma scusa, facciamo collegamenti fantastici alla Zanzara? Quelli che suonano sul Titanic mentre affonda. Sì, sarebbe interessante, perché veramente... Cioè, tu lavori come musicista, musicista in una casa chiusa in Svizzera. Ma che fanno? Cioè, musicista che vuol dire canti, suoni, che fai? Sì, canto e suono insieme anche a dei colleghi. Ed è un'esperienza, devo dire, molto interessante, perché mi ha aperto gli occhi su un sacco di situazioni. Beh, innanzitutto. Vabbè, approfondiamo nei prossimi giorni perché non abbiamo tempo. Salutiamo Buonanno che se n'è andato. Parenzo? No, io sono qua. Oh, Gianluca, vabbè, ci dobbiamo salutare. Sono qua, ciao. No. Volevo dire che comunque il mio ragionamento è più civile dei comunisti di tutte quelle porcherie che hanno fatto e continuano a pensare. Ma che c'entra i comunisti con Totò Riina, però? Scusa. No, perché questi fanno sempre i garantisti. Toccassero i parenti loro. Vedi che i garantisti non lo fanno più. Ti voglio dire un'altra cosa. Sì, oggi veloce, qua a Strasburgo, ho avuto un dato dove vabbè, dimmelo domani che dobbiamo mezzo milione. Aspetta, dimmelo domani che dobbiamo organizzare un bel confronto con una persona domani, uno scontro pazzesco sulla questione Totò Riina. A domani 18:30, ciao. Svegliatevi un po'. Svegliatevi, siete addormentati, noi abbiamo bisogno di un'Europa. Vielen Dank. Grazie, collega. Herr Kollege, buon anno.